quando siete finiti voi, finiti. Appena prendiamo il potere chiudiamo la zanzara. Siete morti che camminano, morti che camminano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Si tiene la barca, la roba de marca, la macchina del lusso, la dinera dell'incasso, la cuenta in Svizzera, la vacanza esotica, e dice sta canzone tu l'hai dichiarata? Sì, è una cacata. Dichiarata. Si te gusta la serata, ma te manca la moneta. Evasione di sopravvivenza, perché in Italia, senza voler strizzare l'occhio a nessuno e senza ambiguità sulla necessità di contrastare l'evasione, però certamente non è solo una, non è prevalentemente una questione di carattere morale, come dire. Ci sono ragioni profonde, strutturali, che spingono tanti soggetti economici a comportamenti di cui farebbero volentieri a meno. È un'estate a culo stretto. Se avevi la Ferrari, fatte la panda. Se avevi la villa al mare, fatte l'azienda. Se avevi lo yacht, fatte. La voce che avete sentito è di un vice ministro del Partito Democratico, Stefano Fassina, un personaggio abbastanza conosciuto, forse non molto conosciuto al grande pubblico. Insomma, questo Fassina, che non è Fassino, Parenzo, si chiama Fassina. Lo conosco benissimo, signor Presidente. Tu lo conosci bene. Ha detto una frase, secondo me, giustissima. Cioè, c'è una parte di persone che evadono per sopravvivenza, per pura sopravvivenza, perché altrimenti con le leggi italiane e con la pressione fiscale che c'è in Italia non si riesce nemmeno ad aprire un bar e ad avviare un'attività economica, diciamolo chiaro. Ha detto per una volta, forse, secondo me, una frase giusta, e ovviamente viene massacrato. È una frase che ricorda il Berlusconi, ti ricordi, del 2008? Ho molte frasi di Berlusconi sull'evasione fiscale. Io lavoro, faccio tanti sacrifici, lo Stato poi mi chiede il 33% di quello che ho guadagnato, sento che è una richiesta corretta, in cambio dei servizi che lo Stato mi dà. Se lo Stato mi chiede il 50% e passa, sento che è una richiesta scorretta e mi sento moralmente autorizzato ad evadere per quanto posso questa richiesta dello Stato. Oh, ancora una carrellata sul tuo amico Priebke, caro Parenzo. Senti Fiano. Ma è vivo ancora? Sì, è vivo. Lunedì fa 100 anni, non ti preoccupare, non ci saranno feste, non ci saranno ricevimenti. Bene. Emanuele Fiano, che tu conosci bene, un deputato del Partito Democratico, nonché di religione ebraica, tocca ma sottolinearlo. È una brava persona. Ah, sì, bravissima, certo. Ma mica. Non occorre specificare. No, occorre specificare, come no? Certo che occorre. In questo caso occorre specificare, assolutamente. No, perché dovrebbe essere cose di comune buon senso. Comunque andiamo avanti. Dice nazisti porci bastardi. Esatto. Furono dei porci bastardi, e che lui non direttamente, ma i suoi commilitoni sono stati corresponsabili di una tragedia. Poi viene scaricata proprio come la cagata. Oh, poi è intervenuto anche Pacifici della comunità ebraica, che dice: non accettiamo di vederlo passeggiare. Ora, io sono dalla parte del mitico inarrivabile Giampiero Mughini, che dice: basta con questa storia, rimandatelo in Germania, non si capisce perché non può passeggiare. È libero di fare certe cose negli orari prescritti secondo le disposizioni di legge? Sta violando qualche norma? Allora, perché Pacifici, che io stimo, della comunità ebraica italiana, dice di non accettare che passeggi? Ma si faccia gli affari suoi, no? Nonostante quello così, però vederlo passeggiare per Roma non solo ci dà fastidio, è un fatto che non accetteremo in Parlamento. Allora, io sono sempre dalla parte, quasi sempre dalla parte della comunità ebraica, però che pacifici non accetti che Prip che passeggi, e beh, chi se ne frega. Lo devo dire, caro Parenzo, è inutile stare troppo a discutere. Chi se ne frega? Non accetta che... Questa è una cosa troppo seria, cioè... Ma non mi interessa che sia serio o no. Se lui non accetta quel criminale, Vabbè, è un criminale nazista, le leggi, allora lo ammazzassero, mandassero il Mossad ad ammazzarlo, non rompessero i coglioni. Quel criminale schifoso nazista che non ha la... e lo sta dimostrando ancora una volta di non avere la dignità di uomo. Oddio, ma falla finita con queste... Perché con i crimini che ha compiuto dovrebbe starsene rintanato in una spelonca. Cerca di essere indipendente dalla comunità ebraica. Ma non c'entrano, vedi che sei un povero idiota. Sì, qualsiasi persona idiota. Di buon senso... Di qualsiasi persona di buon senso direbbe quello che dice Mughini: mandatelo in Germania. Ma Mughini, ma vabbè, è Mughini. Ma perché? Che c'ha Mughini? Non ho capito. Ma sì, ma adesso dice, l'ha detto Bauman. Ma ha detto Mughini. Vabbè, ma perché? Che differenza, è molto più autorevole Mughini di quello. No, ma è simpaticissimo Mughini. Ma, capito, ma qual è il problema? Mughini come altri, sto dicendo. Ma sì, vabbè, dice, l'ha detto Mughini. No, senti, la comunità ebraica che non tollera che quello passeggi si copre di ridicolo. Si copre di ridicolo. Secondo me pensassero a problemi più seri. Non a Pripke che passeggia. Ha tolto la vita a migliaia di persone. Vabbè, l'abbiamo capito. L'abbiamo saputo. Una persona lo sappiamo, orribile. Lo sappiamo. Non c'è orribile. Bisogno di... Non c'è bisogno di ripeterlo, lo sappiamo. Siccome per legge può passeggiare per Roma a fare la spesa, non sta violando nessuna legge, pacifici se ne faccia una ragione. Io dico che mi fa vomitare. Sì, vai a vomitare, se vuoi ammazzarlo manda il Mossad, manda qualcuno a farlo fuori. A differenza del criminale è un pesce piccolo, è un pesce piccolo inesistente, è un passato finito, morto, gli state dando troppa importanza, è un personaggio minore, è un personaggio minore. Vabbè, ma ripeti questa cosa da giorni, l'abbiamo capita, dai, su. Perché sai, non sia mai che la vera festa sia il suo non arrivo ai 100 anni. Vabbè, non, ma ho capito, se tu ti auguri che qualcuno vada ad ammazzarlo, dillo apertamente, non fare come al solito, non dire cose generiche, tu ti auguri che qualcuno lo faccia fuori, gli amici del Mossad, come no? Detto. Come questo assolutamente. Ti auguri un bel ride, di verità, un bel ride. Questo assolutamente. Vabbè, lasciamo perdere questo argomento. È successa una cosa vergognosa ieri alla Camera o stamattina alla Camera. Non dovesse arrivare in 100 anni. Vabbè. Però quando è successo? Ieri, stamattina, quando è successa? Vabbè, ho capito, però ho capito. Allora, ieri alla Camera. Parlava a un certo punto mentre cammina improvvisamente cade per terra. Oddio mio. Mentre cammina in campo. Ti auguri la morte di Pripke, no, l'abbiamo capito. Se mentre cammina dovessi inciampare inavvertitamente. Va bene, abbiamo capito. Allora, inavvertitamente. Ti auguri la morte di Pripke. No, per carità. C'è un deputato che si chiama Matteo Dall'Osso, il quale ha una grave malattia. E che ieri durante un intervento alla Camera inciampava un po' sulle parole, ma non è che inciampava perché era incerto, perché era ignorante o perché non sapeva, semplicemente perché ha la sclerosi, insomma, una malattia grave. È stato sbeffeggiato, e noi vogliamo i nomi qui, è stato sbeffeggiato da alcuni suoi colleghi deputati del Partito Democratico e di Scelta Civica, si dice, sbeffeggiato, lo pigliavano per il culo, cambia foglio, leggi meglio, eccetera eccetera. In Europa la situazione varia in positivo, solo in Spagna il 35, in Francia il 25, mentre la situazione varia, sì, cioè, lo so ragazzi. Intende continuare? Deputato? Sì, sì, assolutamente. Prego. Assolutamente. Scusate. Poi conclude così, Poi conclude così, Dall'Osso. Conclude anche pigliando per il culo quelli che l'hanno insultato. È come i tre violoncellisti dissero sul Titanic prima che affondasse: è stato un piacere suonare con voi. E io aggiungerei anche: ma anche no. Grazie. Siamo qui, 800 24 00 24. È successa un'altra cosa oggi, Parenzo, un'altra notizia. Te lo ricordi Cabobo, quello Cabobo, che ha picconato tre persone, ha ammazzato tre persone. Sembra che dalle perizie psichiatriche, ma sono notizie ormai accertate, possa addirittura non essere processato, cioè non sarà condannato, farà l'ospedale psichiatrico e basta, magari fuggirà. No, tu sei contento naturalmente, no? Cioè era pazzo. No, non sono contento. Sei contento? Come no? Sei contentissimo. Ma allora se tu pensi che io sia contento, sono mica Dimmi. Stupido. Non posso, ma come faccio a dire solo dico che se c'ha l'infermità mentale, se vale per i criminali di pelle bianca, come piace, deve valere anche per Cabobo. A te piace molto questa cosa dell'etnia? No, non mi piace, non mi piace. Vabbè, allora no, nulla di strano secondo te, nulla di strano. Rom. Nulla di strano, no? Musulmano. Va bene, abbiamo capito, nulla di strano, no? Nulla di strano. Come a te piace tutto questo gergo? Nulla di strano perché vale come per qualsiasi, come per un bianco. Criminale di pelle Igor bianca. Iezzi, segretario provinciale della Lega di Milano, buonasera. Buonasera a voi agli ascoltatori. Allora, caro Iezzi. Signor Iezzi. Che c'hai con Iezzi? No, benissimo, anche Iezzi, cominciamo col signor Iezzi. Perché? Che c'è di strano? No, subito il primo piatto del giorno, l'antrè, l'antipastino, no? Come nei ristoranti. Cioè, come antipasto le portiamo il signor Iezzi. E lui vorrebbe mangiarmi, ma non ci riuscirà. Scusi, Iezzi, se Cabobo... Il cuoco Cruciani, vediamo il signor Cracco Peck Cruciani cosa ha cucinato oggi. Un antrè col signor Iezzi, poi arriva un contornino di hotel, ma poi arriva un primo di Razzi, poi arriva un secondino di Cipollino. Ma puoi anche andare via, se non gradisci le pietanze. Avanti, puoi anche andare a fare il culo. Formiamo l'altro, invece arriva alla fine. Scusa Iezzi, mi potete fornire qualche conduttore di Radio Padania cazzuto, sì, con cui combattere ogni giorno? Gente per bene. Certo, gente per benissimo, gente, perché qual è il problema? Con la faccia pulita, la schiena diritta. Perché no? Voglio affiancare a Parenzo un conduttore di Radio, sì, Padania, sì, ogni giorno alla Zanzara. Iezzi, poi mi farai i nomi dei migliori. Bisogna vedere se il conduttore di Radio Padania c'è. Ma come non accetta? Sì, ma di che stiamo parlando? Dai, su. Molto grave. Iezzi, dai, su. Se non scherziamo, accetta alla grande. Scusa, che fate voi se il signor Cabobbo non dovesse essere processato? Qualsiasi cosa nelle nostre possibilità, perché sarebbe... In che senso qualsiasi cosa? Sarebbe un ulteriore omicidio, l'omicidio della giustizia, una cosa inenarrabile. Ma adesso noi stiamo cercando di capire quando si terrà la prossima udienza e andremo lì, cingeremo d'assedio il palazzo, entreremo, tireremo le orecchie al magistrato, diremo... Ma scusi, a che significa circonderemo il palazzo? Ecco. Cioè farete le manifestazioni fuori dal palazzo di giustizia? Assolutamente. Fuori, dentro, guardi, è una, questa cosa qui è una roba che non passa, sulla quale non possiamo transigere. Questo qui è un assassino, un pluriomicida. Ho capito, ma non se uno decide. Di mente, perché lei dice che non è infermo di mente? È un medico? Non lei è infermo di mente perché basta guardare le immagini, avete guardato anche voi ai tempi. Ma non è che bastano le immagini, ci sono le perizie. No, le cose. No, le immagini sono molto chiare perché si vede benissimo una persona che nel momento in cui arrivano le forze dell'ordine butta via il piccone e cerca di andare via. Di conseguenza, questo fa capire che lui sapeva che cos'era quel piccone, sapeva quello che stava facendo, non era una persona che, come dice lui, sentiva delle voci cattive, è uno che era consapevole di quello che stava facendo. Vabbè, però lei non si può sostituire, Iezzi, lei non si può sostituire alle perizie. Allora, questi periti che sono tutti dei tromboni, dei deficienti, degli incapaci? Ma guarda, io non lo so cosa sono, io non faccio il magistrato, non appunto faccio l'avvocato. Quello che noi facciamo è politica, quello che noi facciamo è... Sì, d'accordo, per lei, però lei sta entrando nel merito di una vicenda. Io sono su questa posizione abbastanza chiaro, anche se fosse incapace di intendere di volere, per me in galera deve stare, punto. Assolutamente. Cioè, anche se fosse incapace di intendere di volere, capito Parenzo? Capito Parenzo? Sì, cambiando le leggi un po'. Se le leggi sono sbagliate si cambiassero, qual è il problema? Ha ammazzato tre persone, certo, scusa, secondo te se uno ha ammazzato tre persone può andare in una clinica psichiatrica per poi scappare dalla finestra la notte, Parenzo? Il codice penale secondo Cruciani e Iezzi è un nuovo codice penale. Ma superiamo questo impasse. Signor Iezzi, mi scusi, ma la stessa battaglia l'avete fatta per i killer padani dichiarati incapaci di intendere di volere? Facciamo la lista dei killer padani, i cosiddetti killer del nord? Ma io a differenza sua, dottor Parenzo, non faccio differenza tra killer padano e killer ganese. Un killer è un killer, se uno uccide tre persone deve finire in galera. Guarda, faccia presente che la Valandro, di cui avete parlato anche nella trasmissione, la consigliera di zona che aveva detto, aveva fatto quella battuta infelicissima sulla... No, vergognosa, che, diciamo vergognosa. Avuto, sì, vergognosa, quello che vuole. Ha avuto, mi sembra, 15 mesi di condanna. Per 13, una battuta, sì, per 13. 13. Per una battuta. Questo signore, questo chiamiamolo così, insomma, questo Cabobo non rischia di farsi neanche un giorno di carcere. Faccio presente un'altra cosa. Ok, ma se succede, voi che fate? Cioè, lo ammazzate voi fuori quando esce? Che fate? Ah, beh, lui a Milano, noi non ammazziamo nessuno, ma è evidente che lui a Milano non gira. Cioè, non pensiamo che lui prima cosa di vuol dire, 5-30 anni possa girare liberamente per Milano. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Scusi, questo è un pluriomicida. Un pluriomicida non ha diritto di girare nella nostra città, non ha diritto di e se gira, che succede? Tranquillamente, come se nulla fosse successo. Cioè, se qualcuno si fa giustizia da solo, secondo lei fa bene? Oh, secondo me sarebbe comprensibile in un caso come questo, perché io mi metto nei panni di uno dei parenti, che tra l'altro alcuni dei quali ho anche conosciuto, di una delle tre vittime, che dovessero vedere Cabobo che se ne sta tranquillamente in giro, o nell'ipotesi che è in discussione, gli potrebbe prendere in un ospedale, io credo che sarebbe comprensibile un suo gesto di questo tipo. Io non sto dicendo che è comprensibile. È comprensibile se un parente delle vittime ammazza Cabobo se lo... Sarebbe assolutamente comprensibile. Io, se fossi il papà del ragazzo di 20 anni che è morto, probabilmente avrei una reazione di questo tipo. Lei lo farebbe fuori. Traffico. La Zanzara. Evasione di sopravvivenza, perché in Italia, senza voler strizzare l'occhio a nessuno e senza ambiguità sulla necessità di contrastare l'evasione, però certamente non è solo prevalentemente una questione di carattere morale, come dire. Stefano Fassina pronto per l'iscrizione a Forza Italia. Beh, ha detto una cosa, caro Parenzo, sacrosanta. Cioè, ha detto una cosa che è la descrizione. Certo, è strano, perché Fassina è uno di quelli, no, che faceva delle affermazioni vigorose, forti, come si dice? Tonitruanti, no? Come si dice? Roboanti. Sull'evasione fiscale, sugli evasori. Sei troppo eccitato da questa vicenda del negro Cabobo. Ma perché? Qual è il problema? Non ho capito. Tu è il signore, l'entrée. Scusi, nel suo mondo ideale, caro Iezzi, Cabobo che fine farebbe? Ecco, diciamola, nel suo mondo ideale, però mi sia franco su questo. In una cella non troppo comoda, dove avremmo buttato via le chiavi. Ma la ghigliottina, la pena di morte? Ma io non credo alla pena di morte, però in un caso come questo non avrei problemi, se fosse un magistrato, ad affibbiargliela. Non ci credo particolarmente. Però se ci fosse la pena di morte non sarebbe una cosa così, per Cabobo. In questo caso non griderei allo scandalo, anzi sarei abbastanza favorevole. Vedi la differenza che c'è. Che c'è? Qual è la differenza? Dimmi. No, che abbiamo parlato. Io non ho capito, tu vuoi la galera, la morte per Priebke, che ha ammazzato certo 300 persone. Questo. 300 persone. Invece stavo per dire esattamente questo, perché sapevo che la tua superficialità sarebbe arrivata a questo. Sì. Stavo per dire questo, cioè due tribunali diversi hanno condannato da una parte il signor Priebke, che secondo le leggi non a stare in galera, perché questo è un paese democratico, ma ai domiciliari. Ai domiciliari, sì. E lo stronzo criminale boia gira tranquillamente per la città e addirittura gli fanno pure il compleanno. A cent'anni. Sì, c'è vissuto troppo. Dall'altra c'è un tribunale che forse dichiarerà il signor Cabobo incapace di intendere di volere. Sì. E invece c'è una giustizia speciale per il signor Cabobo. No, che giustizia speciale? Ha ammazzato tre persone. Non può girare per Milano, come se dichiarato incapace di intendere di volere girasse per Milano. Beh, è possibile, lo sai. Cabobo. È possibile. No, andrebbe in Italia andrebbe a finire in un posto che stiamo ospedale psichiatrico giudiziario fino a quando non lo Sì, finirà. Ma di lì si scappa. Scusi, Iezzi, lei ripetiamo, esponente importante della Lega a Milano. La cosa che le voglio chiedere, lei ci crede che al fatto che lui ha queste voci si è inventato tutto? Io alcune voci al signor Cabobo, altro che le voci cattive che lui sentono, e noi andremo in tribunale a fargliele sentire queste voci. Ma perché dovete andare intorno al tribunale? Per intimidire i giudici? Non intimidiamo nessuno, come cittadini che fanno politica li vogliamo far capire che questa è una roba folle, che non è pensabile, ma come può un magistrato, infatti io credo che sia un'indiscrezione. Ma si sta inventando tutto, no, ma che è sbagliata, assolutamente non è sbagliata, è realistico, ma lo si dice fin dal primo giorno. Ma infatti è una voce che continua, questa è la voce cattiva, non quelle che sente Cabobo nella sua testa malata. Le voci cattive sono queste indiscrezioni che prevedono che questo qua si vada a passare qualche anno in un ospedale bello, tranquillo. No, non funziona tranquillo così. Hai ucciso tre persone e finisci in galera. Vabbè, Iezzi, grazie, arrivederci. Grazie, grazie a voi. Grazie. A Abbiamo Stefano dalla provincia di Roma. Buonasera, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io quanto riguarda il discorso della signora che ha preso la manganellata, se ancora con questa male, questione della TAV, ha preso la manganellata dopo che era stata fermata. Sì, non lo so, ma qua è importante. Certo, sì. Certo, perché se viene manganellata durante una sommossa è più che giusto che venga manganellata, ma se la persona è fermata non capisco perché deve venire manganellata gratuita, è quello che non riesco a capire. Va bene, poi? E niente, perché so che più o meno come lavora la Celere, visto che qui dove abito io una volta c'era la scuola della Celere. Vabbè, Stefano, il fatto che ci sia la scuola della Celere vicino a casa sua, a noi che ci interessa, scusi? No, so come funziona, praticamente loro sono come quelli che vanno allo stadio per far casino e basta, si vanno a divertire. Sì, infatti i poliziotti vanno là a divertirsi, certo. Si divertono a menare, sicuramente ci sarà qualcuno che si diverte a menare. Si sentono potenti. Quello può essere, ma bisogna sempre sottolineare che in Italia il monopolio della forza c'è la polizia, certo bisogna esercitarla poi nel rispetto della legge, però non è che il monopolio della forza non ce l'ha nessuno, cioè, ce l'ha la polizia e le forze dell'ordine. Emanuele da Roma, buonasera. Buonasera Parenzo, buonasera Gruciani. Dica. Io volevo portare la mia testimonianza, perché ieri sera stavo seguendo la trasmissione, si è parlato di rumeni. Noi siamo una realtà, un esperimento che è iniziato da 2 anni in Italia, che forse non tutti sanno. Ma non ci interessa adesso. La lingua rumena. Non ci interessa questa cosa qua. Volevo solamente segnalare una cosa. Sì. In Italia ci sono più di 156 salme che stanno negli obitori in attesa di essere rimpatriate e nessuno si riesce a capire chi è in grado di far rimpatriare questa gente. Ma che vuol dire? E sono comunque alle spalle, sono anche sulle spese nostre, perché comunque vengono pagate da noi. Che vuol dire? Non ho capito. Perché lei adesso ci deve sollevare questa cosa qua, le salme non rimpatriate, di chi, di come, quando? Che importanza ha? In Italia ci sono negli obitori più di 156 salme extracomunitari di cui non sono state rivendicate, diciamo, ce ne faremo una ragione. 156 salme non rivendicate, dunque che ci facciamo con queste salme? Ecco, appunto, chiedo alla... Ma che me ne frega a me di 156 salme di extracomunitari non rivendicate, Emanuele? Non mi sembra un problema mondiale, francamente. No, non mi sembra un problema... Calcolando che lo paghi anche te, Parenzo... Lo so, ma sì, per carità, faremmo bene a in qualche modo a risolvere questa questione, ma insomma, non credo che lo Stato crollerà, Ma io penso che sia un problema Anna Maria da Genova, sì, un problema gravissimo, infatti se ne occupano tutti. Anna Maria da Genova, 156, fossero tipo 10.000, diceva, 156 salme non rimpatriate di extracomunitari, vabbè, insomma, purtroppo ci dobbiamo sobbarcare anche queste. Anna Maria. Buonasera. Senta, io volevo chiederle, per favore, di usare, parlando di Pribke e di tutto quello che ha fatto, che sappiamo, e pensando a tutte le persone, non solo quelli che hanno avuto i morti, eccetera, ma tutti quelli che si sentono offesi, colpiti da tutto quello che sappiamo, ecco, di usare, parlando di quello, un tono un pochino più rispettoso di tutte queste persone. Ma io ho grande rispetto. Può avere tutte le opinioni che vuole, meno male. Però ci mancherebbe, però tutto questo tono così che usa per altri argomenti. Guardi, per me l'argomento Pribke è uguale agli altri argomenti. Io dico semplicemente che la comunità ebraica che sostiene che è fastidioso vedere Pribke, che cos'è che ha detto? Non accettiamo di vederlo passeggiare. Beh, se ne faccio una ragione, perché passeggia secondo le leggi italiane. Se non vogliono che passeggi, mandino degli incursori, o facciano mandare degli incursori, diano qualche consiglio di mandare qualche incursore per farlo ammazzare. Ma perché? Perché devi essere sempre allineato? Devi essere sempre allineato! Come se qualcuno può mandare degli incursori. Ma è perché non è successo nel passato. Giornale radio. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Sei ancora in casa? Che affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Io ascolto la zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al castello di Genova. Duro. Duro. Una volta polpaccio e poi all'altro. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. E a proposito di froci, cari amici, come dimenticare l'ennesimo intervento Parenzo, come definirlo? L'ennesimo intervento anti-gay, diciamolo pure, da parte di un esponente politico, il senatore Sergio Divina, che tanto divino non è, ieri alla Zanzara, quando ha detto che insomma un figlio gay, sentiamo. Mi spiacerebbe molto, però un figlio è un figlio e te lo tieni in qualsiasi modo. Ma quello non c'è dubbio. Forse cioè, anche un delinquente e te lo tieni anche delinquente. Provi a farmi capire i comportamenti corretti e meno, però se avessi anche un figlio deficiente ti tieni pure il figlio deficiente. Hai capito? Cioè avere un figlio gay è come avere un delinquente, un deficiente, un cretino, eccetera. In ogni famiglia poi certo ci sono le disgrazie. È Divina della Lega. Diciamo che in ogni famiglia abbiamo un fratello un po' cretino e ce lo teniamo sulle spalle, buonanotte. Beh, insomma, c'è sempre qualche disgrazia, dice lei, no? Divina. In ogni famiglia ha le sue. Allora, la cosa è un po' complicata, però poi si può anche ridurre e sintetizzare in questo modo. C'è un leghista che in una commissione ha presentato un documento che viene chiamato DURT, è un documento molto complesso, che significa documento unico di regolarità tributaria. Questo leghista si chiama, credo, Pisano, Girolamo Pisano, presenta questo documento facendolo passare come una cosa benemerita, una cosa straordinaria, grandiosa, in realtà complica la vita alle aziende, cioè mette ulteriori cose burocratiche, complica la vita alle aziende. Finalmente questi del 5 Stelle se ne rendono conto e adesso si dissociano dal loro esponente, una cosa patetica. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Deraglia un treno vicino a Santiago di Compostela, 80 le vittime, andava a 190 all'ora dove il limite era 80, immagini sconvolgenti. C'è chi evade per sopravvivere, bufera nel PD per le parole di Fassina, la Camusso errore politico, Brunetta bene, parla come Silvio, ma poi è polemica sull'IMU. Letta incentivi per favorire l'emersione delle aziende in nero, i commercianti e l'economia sommersa fa volare la pressione fiscale. Dopo la seduta notturna continua alla Camera la baratona del decreto del fare, tra l'ostruzionismo dei 5 Stelle e momenti di tensione. I 5 Stelle accusano un nostro deputato malato di sclerosi multipla, il riso perché nel suo discorso ha perso il filo, ma gli altri gruppi smentiscono. Il Papa in visita in una delle più povere favelas di Rio, festa tra gli abitanti e lui entra in una baracca, lavoriamo per un mondo più giusto. Campi bruciati, una collina in fiamme, un morto, tre dispersi e cinque feriti nell'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio nel Pescarese. Guarda, io sto lavorando per il bene della Corea, ma anche per il bene dell'Italia, perché noi all'estero devo dire che siamo molto amati. È arrivato a Pyongyang, porterò la pace in Corea. Antonio Razzi. Sarà ricevuto proprio da Kim Sung-yong, il dittatore. Un il dittatore della Corea del Nord. Diciamo, è un paese che si vuole adeguare e che vuole avvicinarsi alla democrazia. Mi diceva scherzosamente, mi ha detto il vice ministro Pistelli, dice: se riesci a fare pace ti daranno il premio Nobel per la pace. Ma non è questo l'intento mio, non è questo l'intento, è quello veramente di far riunire, perché è un popolo che magari uno dice una cosa e uno dice l'altro, ma alla fine è la verità, mettono, nessuno lo sa. Se si mettono insieme e si siedono a tavola, io credo che c'è il dialogo. Erano le ultime notizie da Pyongyang da parte del senatore, nonché presidente, anzi segretario della Commissione Esteri del Senato, Antonio Razzi. La grande missione è riportare la pace tra le due Coree. Secondo lui è semplice, basta che si siedano a tavola. In realtà lo fanno da 50 anni. Oh, c'è Facci che è preoccupato per te, eh? Ho sentito stamattina. No, no, ho sentito che era preoccupato per te. Sentiamo un po', Facci. Volevo solo manifestare un po' di preoccupazione per il mio amico Parenzo, che per le sue particolari modalità di eccitazione e per il fatto che, che pensa che questo governo debba darsi, questo governo dovrebbe darsi la popolarissima immagine di macchine della polizia che scorrazzano, no, guardi, sì, sì, perché è concorrenza della finanza, sì, no, no, ma gli potrei anche essere d'accordo, ma gli fanno fare anche un giro qualche volta come emblema, i filmini delle retate della Guardia di Finanza, ho capito, ma voglio dire, c'è gente che si fa frustare, Parenzo. Devo dire la verità, come cazzo si fa ad eccitarsi, Parenzo, per le gazzelle della Guardia di Finanza sguinzagliate inutilmente per i bar alla ricerca di scontrini a Cortina, se non addirittura, guarda, cioè tu ti ecciti per queste cose? Sei tu, tu guardi, tu e altri simili guardi You Porn, io guardo You Finance. Ma tu pensa come stai messo male, pensa come stai messo male. I filmini delle retate, guarda, i filmini. Pensa come stai messo male, perché ormai non ti tira più nemmeno, non ti tira più nemmeno con la carrucola, e allora devi essere l'ultima perversione sono i filmini delle retate, i filmini delle retate. Ma sei messo malissimo, ma che te ne frega a te dei delle retate della Guardia di Finanza, ma che te ne importa? Molto bello, molto, lo Stato, la presenza dello Stato, bellissimo. Oh, sentiamo la signora Ruocco 5 stelle, la quale dice che Brunetta è il capo del malaffare. Questo ordine del giorno potete e dovete fare qualcosa di utile, finalmente. Se non lo fate, non smentirete voi stessi e ci dovrete riconoscere che pur sedendo negli scranni siamo differenti, ontologicamente differenti. Con buona pace del vostro grande presidente Brunetta, capo indiscusso del gruppo unico dell'affare, del malaffare, delle larghe intese e dell'inciucio. Brunetta se l'è presa assai per capo unico del malaffare e la vuole portare in tribunale, anzi ha annunciato la querela per diffamazione. Poi la Ruocco ha cercato di giustificarsi, devo dire che insomma le frasi che abbiamo sentito sono abbastanza chiare, e poi per carità uno può dire lo intendevo, comunque sono deputato, no? Però per coerenza la signora Ruocco se chiamata in tribunale dovrebbe rinunciare, cari miei, cari ascoltatori, dovrebbe rinunciare all'immunità. Siamo qui, Antonello da Novara. Buonasera, Antonello. Buonasera, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Vada, vada. Ma io chiamavo perché mi piace moltissimo il suo disincanto intellettuale. Lei è sinceramente una persona intellettualmente onesta, anche quando dice le stronzate le dice in maniera onesta. Vabbè, dunque? Per cui una grande cosa, voglio dire, Fassina, io chiamo per la questione Fassina, ma non è che questa mattina Fassina, prima di fare questa dichiarazione, l'abbia concordata con la CGIL? Perché capita spesso questo fatto che Fassina dice una cosa e subito dopo la CGIL interviene. Beh, non mi pare, però, non mi pare. Esattamente il contrario, Cruciani e Parenzo. No, ma non mi pare in questo caso che sia stata concordata con la CGIL, devo dire la verità. È esattamente il contrario. Anzi, è stato criticato subito dalla Camusso, che è il grande capo della CGIL. È per questo che dico, cioè, è questo. Vabbè, lei dice un gioco delle parti, può essere pure. Io sono certo che è un gioco delle parti, sono certo che è quello che. Comunque, ha detto una cosa sacrosanta, dai, c'è un sacco di gente a sinistra che la pensa come Fassina, non ha mai il coraggio di dirlo, dai, è la realtà. È questa la verità. In Italia, se vuoi per esempio aprire un bar, mi scrive l'amico Luca Bizzarri, se vuoi aprire un bar e lo vuoi fare legalmente, non lo puoi fare, devi per forza, secondo la legge, violare la legge. È la realtà dei fatti, dai. È la stessa cosa con l'evasione. Spesso si evade per sopravvivenza, altrimenti non ce la fai. Ma quando la sinistra dice qualcosa di intelligente, chi è che interviene e blocca ogni possibile spiraglio? Il grande partito della conservazione. Grazie. Marco da Prato, buonasera Marco. Sì, buonasera, vengo dietro agli ultimi interventi. Dica. Beh, Fassina ha scoperto l'acqua calda, perché sto discorso lo sento fare da secoli, quindi quelli di sinistra che si scandalizzano mi fanno altro che ridere. Prima cosa. Seconda cosa, sì. La Camusso farebbe bene a puntare il dito su tutti quei dipendenti pubblici che vanno a spasso dalla mattina alla sera dopo aver passato il tesserino. Cioè, questo alla Camera, dire... dove però hanno scritto delle cose orribili, no, su internet contro i dipendenti della Camera, li ammazziamo tutti, eccetera, eccetera. No, vabbè, ora senza fare esagerazioni dal punto di vista violenza e quant'altro, insomma, ci sono dipendenti pubblici che hanno lavorato e che lavorano un'ora alla settimana, non sanno proprio cosa fare, arrivano in ufficio. No, e dunque voglio dire questo, esistono due tipi di evasione, secondo il mio modesto parere. Quella veramente del farabutto che porta le vagonate di miliardi all'estero, vabbè, e quelli francamente sono persone, a mio parere, sgradevoli. E poi esiste l'artigiano che non fa una fattura, si mette in tasca 500 euro, non lo vedo un crimine. Vedo molto più odioso il dipendente che lavora rispetto alle ore che dovrebbe lavorare, pochi minuti. Va grazie. Bene, grazie. Leonardo Verona, buonasera. Basilica di San Paolo. Leonardo, dica. Volevo dire semplicemente a Parenzo che Cabobbo e Pribiche sono stati semplicemente, è stata la legge a dargli la libertà a tutti e due. Ancora a Cabobbo no, ancora a Cabobbo no. Ah, vabbè, comunque non capisco perché Parenzo si incazzi così tanto. No. Sì, no. Io infatti non critico la sentenza, io come vede non ho mai ho detto semplicemente che mi meraviglio del fatto che ancora una volta ha dimostrato di non avere alcuna umanità, volendo addirittura, comunque non me ne frega nulla, ho detto ha vissuto 100 anni, anche troppo rispetto a quello che ha fatto, anche troppo. Oddio, ancora questo fatto. Beh, anche troppo. Se uno dire, passeggia non c'è niente di strano, passeggi pure a 100 anni, passeggi pure. Appunto, cioè che protesti contro la legge. Se Cabobo secondo te può andare in un manicomio criminale invece che andare in carcere? Sono cose un po' diverse. No, uno è un piano giuridico, l'altro è un piano, come dire, di umanità. Ma che no? Umanità? È uno che è stato condannato, allora, è vecchio per andare in galera, ha gli arresti domiciliari, può andare a passeggiare a fare la spesa. Diversi. È evidente che sul piano giuridico che può andare a fare la spesa. E allora basta, ti dà fastidio, questo peggio per te. Ti dà fastidio, peggio per te. Io esprimo un giudizio morale. Il giudizio morale. Su questa persona. Borsa, dai, mandatemi la borsa. La Zanzara. Parenzo, che inno è? Poi dimmelo, Dino protesta, da Latina. Non parteciperò più alla trasmissione per le prossime 2 ore. Perché? Perché? Per questo inno. No, ma chi è che ti ha detto caro Parenzo? Chi è che ti ha detto caro Parenzo? No. Nessuno. Dino, forse di... Dino. Allora, salve Cruciani, salve Parenzo. Ti richiamo da Latina. Io volevo dire una mia opinione, anzi un paio. Una, che per salvare l'Italia da questa crisi propongo di clonare Berlusconi almeno 1000 volte. In che senso clonare Berlusconi, scusi Dino? Ma se è accettato che paga centinaia di milioni di euro di tasse e ha creato migliaia di posti di lavoro, vabbè, dobbiamo farlo clonare subito, prima del 30 luglio, perché ce lo danno fuori. Dopo il 30 luglio, Cruciani, ci sarà il silenzio tombale. E un'altra cosa che volevo, un'altra opinione mia, sì, è che noi in Italia, cioè, siamo grandi, applaudiamo i magistrati e i sindacati che stanno demolendo l'economia e il mondo del lavoro. Cioè, i magistrati che per combattere l'evasione fiscale lo fanno in un modo talmente plateare, a caccia di barche, di conti correnti, sì, di auto, che stanno facendo fuggire chi produce ricchezza e che producono posti di lavoro. Vabbè. I sindacati, a posto di difendere i lavoratori onesti, e gli imprenditori che creano posti di lavoro difendono chi rovina il posto di lavoro e sono dei fannulloni. Cioè, vabbè, ho capito, Dino. Andiamo a Roma, Ever, buonasera. Buonasera, sono Ever, ciao. Io sono un ebreo di Roma, iscritto alla comunità, e prima ho sentito che dicevi che noi manderemo degli incursori, non siamo voi, abituati. Non voi, non voi. Tu hai prima Davide Parenzo ti ha detto. Sì, ma non voi della comunità ebraica, Israele stavo parlando, un'altra cosa. Ma c'entra Israele con gli ebrei? E infatti non c'entra nulla. Infatti non c'entra nulla. Infatti ho detto Israele, non c'entra niente la comunità ebraica. No, non hai detto Israele, hai detto voi. Ho detto Israele, ho detto Israele. Mi fai parlare. Hai detto non è la prima volta. Hai capito male, ho detto Israele. Allora riguardati, intendevo Israele comunque, intendevo comunque Israele. Io non è che mi offendo, per l'amor di Dio. Ma qual è il problema? Io ho sempre avuto un rapporto splendido con tutti, ma se ma io lo so, posso esprimere la mia amico della comunità. Ma certo, assolutamente. Assolutamente. Ma io lo so, mi piaci moltissimo, sei amico di Davide, però ti stai comportando in una maniera un po' burlesca verso questo fatto che non è. Ma non è burlesca, se uno scusa un attimo, Ever. Aspetta, parli tu. No, dimmi, dai, dimmi. Dico, credimi, ci sono delle persone che forse tu non conosci, persone di 90 anni, che stanno ascoltando queste cose e sono dispiaciute. Ma dispiaciute perché cosa? Scusa. Delle cose ma me... orribili. Scusa. Ma bravo che cosa? Non c'è niente da dire bravo. Bravo, ma perché non si può giocare su ma tutto. Ma devi stare tranquillo, devi stare tranquillo, Davide. La provocazione fatta per forza. Ma io non ho, non c'è, ma non c'è nessuno. Fatta per vabbè. Forza fuori dal bidet, per forza. Va bene, d'accordo. Allora, Ever, tu sì, capisci sì. Forse meglio di quanto capisce David in questa cosa non qua perché toccare, David, per, no perché ha il prosciutto David, davanti agli occhi e purtroppo in queste cose qui non ci vede come se vedesse e come se ma tu devi accettare anche che si tratta del suo sangue ma cioè non l'ho capito no, ma io non ho detto nulla siamo... io non ho detto niente a me non me ne frega niente di Eric Pribke che forse deve essere chiaro non me ne frega nulla però dico una cosa però se questo signore che è un criminale che ha fatto ammazzare le persone eccetera come gli pare possiamo dire speriamo che inciampa e se vabbè ma sì ma che vuol dire perché date così importanza a un pesce piccolo a un signore ma che era un manovale pesce piccolo questo rappresenta se telefonano centinaia di persone ma sì, e ci la bocca che lui ma c'erano un sacco di ufficiali qua. Lì dai ma è un criminale non ti sto negando che non è un, che è un criminale è un criminale questi sacerdoti ne vogliamo parlare che cazzo stanno a fare con un nazista a festeggiare a spegnere le candele ma saranno affari loro o no ma che ci fa il Papa dice che è amico nostro ma c'è forse sti sacerdoti e dice ma dove cazzo andate a festeggiare il compleanno con un nazista scusa Ever però questo è un problema bravo. Sarà un bravo. Problema interno alla Chiesa Cattolica ma no se... telefono posso parlare di questo o c'è omertà no ma parlare, ti no? Sto lasciando parlare tranquillamente ecco. Allora secondo te non è giusto che qualcuno chiami questi sacerdoti e gli dica ma dove cazzo vai a festeggiare con un nazista tu ma bravo. Scusa un attimo, se un sacerdote nel pieno delle sue funzioni, nel pieno delle sue funzioni, decide di passare una giornata insieme a un uomo che conosce, che magari apprezza per altre cose, eccetera. Ma quale per... cosa puoi apprezzare? Ma quale puoi apprezzare? Merda. Vabbè, ma ragazzi, ma perché? Scusate, ma perché dovete diventare anche un compleanno? Tu puoi fare anche, ma fallo in sordina. Ma infatti non è, ma infatti sui giornali Taormina ieri che ha detto una persona splendida. Ma porca puttana, ma normalmente stiamo scherzando o che cosa? Ho capito, ma se per Taormina è una persona gentile, splendida e colta, ma io che cosa ci posso fare, Ever? Cioè, abbia pazienza. Allora va tutto bene. Allora ma va no, bene. Va tutto bene, ma non è che le persone altro. Allora giustifica. A me mi dispiace che sei tu, che sei proprio una persona riconosciuta da tutti noi che sei una cioè proprio capisci perfettamente questa cosa ma come cazzo si fa a prendere così alla leggera un fatto ma io genere? Non lo sto prendendo alla leggera io ti sto dicendo che ho ascoltato facciamo risentire la cosa di Pacifici della comunità ebraica e dice non accettiamo di vederlo passeggiare facciamola risentire perché è significativa Ever io me la sono presa con questa frase qua perché vabbè, ma questa può essere va bene ma dai io questo dico sono abbastanza lucido da poter dire e sono soprattutto ma ti rendi conto se... che questo scatena tutte queste persone che chiamano perché chiamano perché hanno sul cazzo un po' gli ebrei allora approfittano ma perché non siamo sinceri quando parliamo e infatti sono sincero persone... sono sincero non tu assolutamente ma io dico tutte le persone che chiamano cosa vuole Davide Parenzo cosa ha a che fare contro questo povero vecchietto ma mo se li volta proprio la frittata cazzo allora il senso diventa Parenzo e il bravo vecchietto poverino già da un successo diventa Pribke Ever, scusa un attimo, ma questi preti, che cosa diresti a questi preti che vanno a trovare prima? Ever, questi... Io? Sì. Io non sono certo Vaticano, ma se il Papa sta facendo tutti questi incontri e il Vaticano sta cercando di riunirsi con tutte, insomma, alla fine succede questo, ma richiama questi e dice: ma stattene a casa tua che c'è tanti cazzi da fare, non festeggiare il compleanno. Vabbè, ma sono due o tre disperati di preti. Ma questi disperati, che tu hai chiamato ieri quello lì, non so. Sì, confessore, il confessore di Pribke, sai. Tu gli hai detto secondo te giusto, lasciamo te, poi vorrei capire che rapporto. Tu sai che ho detto quando ci vediamo ne parliamo. No, quando ci vediamo io non l'ho mai conosciuto, quando ci vediamo. Vediamo, ma non l'ho conosciuto, ma adesso non è che ti devo spiegare i miei rapporti con questo prete, non esistono. Allora parla chiaro, se tu anche sei amico di questi qua, diglielo tu, non glielo dico io. Ma che sei impazzito? Io non sono amico di questi, non li voglio conoscere, dopodiché parlo con tutti, non ci ho mai parlato, ci vediamo, non so perché questo qua sia uscito con una frase così intima. Vabbè, Ever, sentiamo pacifici, chiaro. Sentiamo pacifici, dai. Nonostante quello così, però vederlo passeggiare per Roma non solo ci dà fastidio, è un fatto che non accetteremo. Non accetteremo, che vuol dire non accetteremo? Se quello passeggia per Roma, secondo la legge lo dovete accettare. Ma non accetteremo, lo ammazziamo secondo te, non ho capito. Beh, non accetteremo, che vuol dire? Non lo ma so. Ma non accetteremo vuol dire faremo una contestazione, parleremo. Vabbè, ma tu adesso... che faresti a Pribke, se l'avessi davanti, che faresti? Io? Ever, lascia perdere Parenzo, che tanto lo so. Ma che gli fai? Ma è un povero vecchio, che ne so, però io non sono violento, però sicuramente mi rompe i coglioni vedere che c'è la scorta, ma quale scorta? La scorta. Vabbè, ho capito, se no lo fanno fuori. Ma chi lo fa fuori? Beh, ma mi vuoi provocare? Ma è chiaro che se no la scorta che ce l'ha a fare, perché ci sono dei pericoli reali, no? Altrimenti ma che... chi? Ma noi non si... ma tu hai mai visto una violenza fatta da una comunità? Rimandiamolo in Germania, costa €1 milione. Costa €1 milione l'anno, pare. Ma io lo manderei anche dove vuoi, ma chi se ne frega? Appunto, il problema è presto risolto. E qual è il risolto? Il problema per fortuna è presto risolto, perché il più grande regalo di compleanno sarà... Ancora, l'hai ripetuto 10 volte. Sarà l'altissimo che se lo ripiglia, diciamo. C'ha ragione Davide. Ma ha rotto i coglioni già abbastanza, ha vissuto veramente già troppo. Comunque la questione è questa, vuoi combattere con Pacifici? Chiamalo, non il numero di telefono. Ma lo so, ma lo conosco Pacifici, dai, su. Ma per farti spiegare che cosa si deve, perché c'è il rispetto e la dignità di milioni di persone. Vabbè, adesso hai attaccato il pippone, dai. Scusa Crociani, ti voglio dire che sei riconosciutissimo come amico della comunità e questo non si discute. Questo è un fatto che mi sono permesso di discutere. Ma no, ma va bene, ma io sto qua a combattere e a discutere con te. Grazie. Ciao, caro. Umberto da Napoli, buonasera Umberto. Ciao, buonasera. Senti, io vorrei dire basta con questo finto moralismo. A 100 anni, cioè, ma non se ne può più di tormentare anche queste persone. Se agli israeliani dà fastidio che passeggia per Roma, lo facessero rapire da Mossad come hanno fatto negli anni passati. Semplice. Sì, però Umberto, fatti fuori pochi. A 100 anni è un capitano, ce n'erano chissà quanti, è l'ultimo sopravvissuto, ve la prendete con l'ultimo che c'è, dico a Parenzo. L'ultimo che c'è. Rispondi se hai sentito, se hai sentito, perché... No, ma no, bisogna farlo rapire. No, sentivo basso veramente. Sì, sentivi basso mio nonno in carrozza. Il tema mi interessa moltissimo, perché evidentemente mi scuote, perché dovrebbe scuotere qualsiasi persona normale con un minimo di buonsenso sapere che un pezzo di merda festeggia i 100 anni dopo aver fatto crimini allucinanti. Voi mi state facendo un problema che passeggia soltanto. Devi dar fastidio che passeggia, tanto il potere israeliano è incontestabile, lo facessero rapire, ne hanno rapiti pochi, cioè non ne vale, ne hanno rapiti, ne hanno presi pochi in passato, cioè purtroppo. Va bene Umberto, grazie, pochi. Francesco da Treviso, Francesco. Purtroppo. Buonasera, bravissimi, siete bravissimi, vada. Chiamo per chiedervi un aiuto, c'è il sindaco della provincia di Treviso che ha iniziato la raccolta di firme per riaprire i bordelli. Sì, ma tanto non può fare nulla perché non ci sono le leggi, per cui... Però noi tentiamo, se non divulghiamo la notizia, approfitto anche per dire che sarebbe una buona idea, penso voi siate d'accordo, di raccogliere firme per riaprire i manicomi, perché... uno dei grandi errori è stato anche quello, oltre vabbè, che lasciamo perdere Francesco, lei va a puttane? Dove? In bordello o per strada? Ma è un bordello solo all'estero, in Italia o per strada o con gli annunci? No. In Italia non ho mai fruito dei servizi. All'estero ci va ogni tanto? Sempre torno prima per sentire Radio 24, ieri ero a Monaco di Baviera, purtroppo o per fortuna ho cenato là e non ho fatto in tempo a sentirvi. Conosco bene Germania, Svizzera e Austria. Beh, dunque, Germania, Svizzera, lei scorazza per questi tre paesi in per cerca lavoro. Dei migliori bordelli, diciamo la verità. No, caro. Per lavoro, però... Non disdegna, non disdegna. Non potrei scrivere un libro. Beh, Francesco, ma guardi, non si deve giustificare, ma non si deve... Ma una famiglia, si trovi degli affetti. Ma perché? Non ho capito, anche se uno ha una famiglia non può... dice il Parenzo, cosa dice che davanti a 50 creature tutte nude impazziscono tutti, cosa dice si faccia una famiglia? Bravo. Ma si faccia una famiglia? Ma cosa dice? Bravo Francesco, ha fatto l'esempio giusto, davanti a 50 creature, cioè ovviamente maggiorenni ma guardi che scusi, a me non piacciono molto Svizzera e Germania, sì. Ma Austria bene. Sono organizzatissimi. Mi faccio un esempio, dove va lei a Klagenfurt? No, non voglio far pubblicità. No, ma guardi che Klagenfurt Vienna, per esempio, Klagenfurt lei è ottimo. Dottore, lei li conosce benissimo, meglio. No, l'Austria, sì, l'Austria qualcuno. Ma io lo ammetto pubblicamente, l'ho già detto più volte, qual è il problema? Sono stato in Austria due o tre volte, quando sono andato per lavoro un paio di volte, ho frequentato due bordelli, bene, non ho segreti, è tutto trasparente, sono andato una volta a Klagenfurt, una volta non mi ricordo dove, a Vienna due volte. Qual è il problema, Francesco? Lo dica a Parenzo. Nessun problema, anzi lei mi chiami quando è da queste parti. Beh, adesso non esageriamo. Assieme, andiamo a cena e ci facciamo una strana risata in barba a Parenzo. Parenzo, hai capito? Ma io vado anzi tanto a cena con lei, non mi dico tutte le robe che ho da fare, tutte le cose che ho da fare, l'ultima cosa, se per caso davvero, dopo aver scorso tutto l'elenco dei miei amici, sì, sì. Amiche, se per caso proprio dovessi, ma guardi, non succederà perché ho molto da fare. Ma non ho capito, fare, perché no? hai detto? E non ho tempo da perdere andare a cena con questo signore. Dopodiché, ma non per nulla contro di lui, ma non mi interessa, può non interessarmi, non mi interessa. Dopodiché questo qui fa il tour dei bordelli d'Europa, va bene, ho detto si faccia una famiglia, degli affetti. Io sto lavorando, il bordello è solo un passatempo qualche volta, non è che passo la mia vita nei bordelli, cosa sta dicendo? Ma si legga un libro, si guardi un film, faccia... Ma perché? Faccia una riflessione. Ma perché vuoi imporre? Perché vuoi imporre i modi di comportamento anziché, agli altri? Anziché abbassare, ma no, i modi, io dico, do un suggerimento, dico, ma anziché ragionare sempre con le parti basse, con quelli stessi. Ma perché ragionare con le parti basse? Ma sei diventato. Vada a un museo, vada a vedersi una opera d'arte, compri un libro. Adesso, stai zitto? Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto? Dove sta scritto che a chi piace la gnocca non conosce la musica, l'arte? Bravo. Mi spieghi dove sta scritto? Ma piuttosto io sono amante delle donne, figurati, ma piuttosto corteggi una bella donna, ma la corteggi, ma la conquisti. Ma cosa? Perché poi il vino sa da tappo, il primo non va bene, manda indietro il secondo, ma per fare cosa? Ma mi spieghi per fare cosa? Ma vuole mettere la bellezza di conquistare e corteggiare una bella donna anziché banalmente pagare? Lei è proprio una persona, ma va benissimo, vada a cena con Cruciani, va benissimo. No, andiamo a cena con Cruciani, ci facciamo la sana risata, probabilmente andremo anche a sentire un concerto o a vedere una mostra. Bravo. E dopodiché se ci passa per la mente di andare in un bordello, andremo anche in un bordello belli a farci una sana risata. Bravo Francesco, bravo. Bravissimo. Oh, abbiamo con noi un professore ordinario di neurologia, il professor Gianluigi Gigli, che però è anche deputato di Scelta Civica. Buonasera. Professore, anche lei pensa che andare in un bordello sia una cosa disdicevole, come sostiene Parenzo, così? No, io non disdicevole. Mi dica, professore. ognuno ha i suoi stili di vita, mi sembra. No, beh, questo non c'è dubbio. Però perché in molti paesi la prostituzione è legale, ci sono i bordelli, chiamiamoli così, la gente capisce, no? I bordelli, le case chiuse, eccetera, e in Italia no. Cioè, me lo spieghi, Gigli? Non lo so, ma non dovevamo parlare di altro. No, ma così, era un inciso, era un piccolo... Non lo so, perché in Italia c'è stata una legge che si chiama la legge Merlin, mi pare. No? Sì, certo, ma non bisognerebbe rimetterli in piedi questi bordelli, secondo lei, no? Ma io penso che la cosa a cui bisognerebbe provvedere con più urgenza forse sì, è evitare la tratta delle schiave moderna che sta avvenendo. Però la prostituzione non si può eliminare la prostituzione, Beh, ma la tratta delle schiave sì, però. Quello sì, vabbè, quello però ci sono le leggi già per combatterla. Comunque, mi pare che se lei fa un giro per le strade ne vede. Ah, quello non c'è dubbio. Di ragazzine che evidentemente, insomma, è difficile pensare che siano venute qui di loro spontanea volontà a esercitare. Ma appunto per questo forse ci vuole legalizzarle, portarle dentro dei luoghi protetti, eccetera, o comunque dei luoghi controllati. Vabbè, ma questo è un discorso lungo. Senta, Gigli, lei sa qualcosa di quei deputati che ieri, pare anche di Scelta Civica, hanno preso in giro dall'osso quello del 5 Stelle malato di sclerosi? Guarda, io alle 1 di notte, quando il fatto sarebbe accaduto, non c'ero. Le posso, non ero in aula, voglio dire. Sì, ho capito. Le posso però dire, ecco, conoscendo i colleghi del mio gruppo parlamentare, che sono tutte persone di una certa levatura anche culturale, che riesco a immaginare con molta difficoltà una scena del genere. Perché? Perché non mi sembrano onestamente proprio i tipi di persone per lanciare insulti di questo tipo. Cioè, scusi, che c'hanno in più quelle di Scelta Civica rispetto agli altri gruppi? No, voglio dire, non è che hanno in più, sono persone di diverso, di diverso. Hanno tutti quanti provengono da una certa estrazione culturale, che ne so, ci sono parecchi docenti universitari, ci sono parecchie persone che vengono da ruoli elevati nella vita civile, come lei sa, nessuno di noi faceva il politico di professione, no? Cioè, lei dice non sono leghisti? No, non parlo di leghisti, dico che sono persone che sono abituate a stare nella società. Ma guardi, che anche professori, sì, ho capito, ma anche professori universitari, anche stimati professionisti, poi si trasformano in aula in bestie da soma. Per carità, lei lo sa, niente, però le dico, mi riesce difficile crederlo, vorrei vedere un filmato per capire cosa esattamente succede. Cioè, secondo lei non c'entrano niente quelli di Scelta Civica con le prese in giro di dall'osso? Mi permetto di pensare di no. Parenzo, ci sei o no? Sei sparito, non ho capito. Che fine fatto? Sono il segretario del dottor Parenzo. Un attimo, glielo passo subito. Grazie, grazie. Prego, buonasera, dottor Cruciani. Buonasera, grazie, professore. No, ma è il re della patata, era. Ah, ti sei fatto il segretario. Volevo sapere da Gigli. No, è il re della patata, cioè alla festa del PD dove sono, tra amici. Ma tu vai sempre alle feste del PD, cioè tutte le cose. Ma vado a fare quello. Ti mandano sempre alle feste del PD. Vabbè, abbiamo capito. Allora, il signor che si chiama Tony. Ma no, ma dovresti fare un giro. Invece dovresti fare una cosa divertente. Alla festa del PD dovresti fare un giro per sapere cosa ne pensano della frase di Fassina di oggi tra i militanti del Partito Democratico. Quello che stavo per fare. Ma stai per fare dove? Quando? Perché? E quello che stavo per fare, sto mettendo in piedi la cosiddetta macchina dei sondaggi della Zanzara, che adesso verrà la parola. Buonasera. Ecco. Siamo del gruppo della macchina dei sondaggi della Zanzara. Lei ha sentito oggi la dichiarazione del signor Fassina? No. Ecco, l'ha sentita, benissimo. No, allora, che spiegagliela. Hai detto che la macchina dei sondaggi è al lavoro. Signor Fassina ha detto, state bene, che l'evasione fiscale è una cosa molto grave. Lei è d'accordo? Ma non è vero. Allora, il 99% delle persone intervistate nel campione della Zanzara dice che è molto grave la frase di Fassina. Cioè, tu praticamente cosa hai detto? Hai detto una frase che Fassina non ha pronunciato, in più dici che il 99% non interessa. Stai mistificando. Fai una domanda seria a qualcuno, dai, fai una domanda seria. È il nostro modo di fare i sondaggi. Fai una domanda seria. Aspetta, devo fare il collegamento alle 8:30. Ma non me ne frega nulla, non me ne frega nulla del collegamento alle 8:30, cosa di cui non mi avevi parlato, ovviamente, no? Come tutti i giovedì. No, non mi hai detto nulla. Ma che giorno è sì, oggi? Sì, va bene. Senta, Gigli, scusi cosa un attimo. Cosa vai in onda sulla 7? Va bene, non me ne importa nulla. Magistralmente. Come si dice, editato. Oh, mi fai per favore qualche domanda dopo a qualche militante? Dopo, Gigli, Cabobo molto probabilmente sarà, non subirà un processo. L'uomo di colore ghanese che ha ammazzato tre persone con una specie di ascia, non verrà mandato a processo perché incapace di intendere e di volere. È giusto secondo lei? Ma guardi, io, se lei ricorda, probabilmente, perché fui chiamato in causa, se non ricordo male, anche dalla vostra trasmissione, avevo all'epoca già tentato di far comprendere che le ragioni della clinica, cioè della medicina, e le necessità della cura, a prescindere, direbbe Totò da Cabobo, devono avere sempre la precedenza sull'ideologia e, oserei dire, sulla stessa giustizia. Ho capito, questo qua ha fatto fuori tre persone dicendo che c'ha le visioni, che c'ha le voci, eccetera. Ha fatto fuori tre persone. Allora io le voglio ricordare che già il codice Zanardelli. Vabbè, lasci perdere adesso il codice Zanardelli. E con Perbacco, stiamo parlando del periodo monarchico del 1899, e potrei dire pure il codice Rocco del periodo fascista, che è del 30. Voglio dire, adesso siamo in un paese democratico. Abbiamo un codice che è stato, come dire, secondo lei la galera per repubblicana e democratica, se vogliamo tornare indietro sul problema dell'imputabilità. Cioè, secondo lei Cabobo non deve andare in galera? Io dico che se la perizia è confermata, perché stiamo facendo adesso un discorso. Vabbè, se la perizia è confermata, è giusto che non vada in galera. Un attimo se solo. Se un malato mentale grave che è in preda ad una psicosi con un disturbo dell'ideazione come quello che sembra configurarsi dalle notizie di stampa di agenzia, allora certamente si pone il problema di un altro tipo di approccio. Ok, pubblicità. La Zanzara. Allora, vorrei però dire all'onorevole Gigli di Scelta Civica, che è anche neurologo, a proposito, che tipo di malattia abbiamo, secondo lei, io e Parenzo, così, visto dal di fuori, Gigli? No, pensavo si rivolgesse a Parenzo. No, quindi. No, secondo lei, da neurologo, che tipo di malattia... È evidente che si tratta di una psicosi con un grave disturbo dell'ideazione, quello che le agenzie dicono. No, ma dico che tipo di malattia abbiamo io e Parenzo, visti dall'esterno? Non avevo capito, mi scusi la domanda, se è meno grave, non si preoccupi. Dunque, non rintraccia nessun sintomo di malattia da queste conversazioni? Non voglio che poi lei mi perseguiti per i prossimi no, anni. No, ma è interessante, a sentire dall'esterno i nostri battibecchi. Kebab? A sentire i nostri battibecchi dall'esterno, magari uno diagnostica una malattia, no? Una psicosi. Che un po' così, forse di qualche piccolo aspetto comportamentale, ma non stiamo parlando di patologia, certamente. Ah, addirittura qualche prova comportamentale. Vabbè, ho capito. Caro Gigli, non è che cose se uno simpatiche del carattere. Non è che se uno così. Non è che se uno qualche volta come me è andato a puttane, adesso può essere messo al sono fatti suoi, se appunto, la vede, con sua moglie, con la sua amica, che ne so. No, anche io quando mai che c'entra, non è mica una cosa strana. Scusi un attimo, Gigli, io voglio capire, però questo tizio ha ammazzato tre persone. Ha ammazzato tre persone, ammazzate con la non è che uno se ne può uscire dicendo sento le voci, perché sennò va bene sempre la cosa, no? O no? Ma io non sto dicendo che non ha bisogno di essere custodito, sto dicendo che il luogo della custodia non può essere il carcere. Non può essere il carcere. Io le giro la domanda: se fosse un suo congiunto che in preda ad un evidente stato di disagio psichico avesse commesso un crimine, vedi? Dove dove lo vorrebbe mandare questa persona? Sì, ma ho capito, ma io adesso... ma Cruciale non ha umanità, non lei dottore di Scelta Civica, che qualcuno ingiustamente chiama Scelta Clinica. Ma lei, dottore, capisce, si trova di fronte a un personaggio che è privo di umanità, non è un uomo. No, ma lascia perdere adesso. Questo lei non lo può e non lo deve dire, perché secondo lui non sono un uomo. Io penso che uno che ha ammazzato tre persone e che semplicemente sente le voci, adesso per carità ci sarà una perizia psichiatrica. È un uomo malato. Ho capito, che dobbiamo fare? Lo dobbiamo curare? Lo dobbiamo curare, certo. Ce ne dobbiamo prendere cura noi? E certamente certo. Sì. Spendere quattrini? L'ho mandato, perché non lo possiamo mandare in Ghana, per esempio? Ma guardi, innanzitutto credo che noi non abbiamo accordi col Ghana per risolvere questo tipo di situazioni. Secondo, certamente il sistema sanitario del Ghana non è all'altezza forse di quello italiano, che è considerato uno dei migliori del mondo. Cioè, non solo ha ammazzato le persone, ma adesso dobbiamo da malato prenderci cura spendendo quattrini di questo qua. Che era irregolare un peraltro. Antico adagio, che era quello del buon samaritano: tocca a chi si imbatte nella persona che sta male farsene carico. Se il fatto capita nel giardino di casa mia, sono io che me ne devo fare carico, capito cosa voglio dire? Beh, succede anche che qualcuno entra nel giardino di casa mia, non ci dovrebbe entrare però, eh. Certamente, ma se c'entra come un ladro è un discorso, se c'entra da malato o vagabondando è un altro. Senta, beh, ho capito, dipende. Se uno entra e non dovrebbe entrare, commette comunque un'irregolarità, no? È comunque un irregolare, certo, o certo. No? Ma questo voglio dire, di questo possiamo discutere se esistesse un trattato per, come dire, riportare in patria chi è stato trovato illegalmente in un altro paese ed è malato, questo è una cosa che certamente si può discutere. Scusi un attimo, professor Gigli, ma se fosse stato uno dei suoi figli a essere ammazzato, no? Lei come medico lo curerebbe Cabobo? Credo proprio di sì, guardi, perché purtroppo noi questa precedenza della medicina rispetto alla giustizia, noi come medici ce la portiamo dentro. Cioè, anche se Cabò avesse ammazzato suo figlio, lei lo curerebbe. Le posso però dire che a questo tipo di umanità, io ho sentito con le mie orecchie un'intervista che fu fatta ancora a caldo alla mamma del più giovane dei tre morti, Daniele Carella, se non ricordo male, quello di 21 anni, no? E la signora Carella, intervistata, e in un momento nel quale presumo che il dolore non fosse stato certamente ancora nemmeno sedimentato un poco, e la signora disse: se è malato bisogna curarlo, e arrivò ad aggiungere un'altra frase che mi lasciò sconvolto per la sua umanità, perché diceva: ma non sarebbe stato meglio che fosse stato rispedito a casa? E lei disse: forse avrebbe ammazzato qualche altro poveretto, una frase di questo tipo. Vabbè. Comunque la gente è arrabbiata. Una lezione, se mi consente. Beh, può essere, però la gente è incazzata per questa cosa qui, se non viene... Ma possiamo incazzarci quanto vogliamo. Se non viene condannato da un tribunale, se non viene... Non è che perché quello è ghanese o è nero. No, ghanese, che c'entra? Possono capitare... Ma scusi, abbiamo commemorato oggi alla Camera, l'uccisione di quella poveretta del sindaco della zona di Milano, no? Sì, sì. Laura Prati. Sì. È ammazzato da un vigile urbano. Se lo ricorda, come no, certo. Tempo fa, allora... ieri mi sembra. Ora, questa vicenda tristissima in sé non è da escludere. Io adesso non conosco. Mo sono tutti matti. Può essere che sia solo un delinquente, ma potrebbe essere che lui pure, pur non essendo completamente fuori di testa. Ma è troppo facile, però, così, su, dai. Ma è troppo facile. Allora, fare, è chiaro che. Ho capito, però, Gigli, ma è normale che se uno prende una pistola, la botta da matto ce l'ha comunque, no? È evidente se vuole ammazzare qualcuno. Ma però... non è questo che il concetto di imputabilità. Sì, vabbè, non lasciamo perdere i tecnicismi. Sia minata alla base la capacità di intendere il volere. Ma non c'è dubbio. Cosa. Sì, però è troppo facile attribuire a qualcuno la impossibilità di intendere di volere. Vabbè, Gigli, ma lei quanto tiene dello stipendio? Tutto oppure fa come Sberna, il suo collega, che si tiene solamente 2.500 euro? No, io mi tengo tutto e le dico che non mi basta. Perché non le basta? Perché ho 5 figli da mantenere, è pesante, l'assicuro. E comunque, se vuole saperla tutta, io non sto prendendo di più di quello che prendevo col mio mestiere. Anzi, guadagna, ci ha rimesso lei, a un certo un punto poco, di vista. Poco, ma ci ho rimesso, perché quello che si è venuto a perdere è la libera professione, ovviamente. Certo, dunque lei guadagna quanto di meno? 30% in meno? Ci rimette a fare la politica, diciamo la verità? Un pochino sì, non molto, per fortuna. Però ma un po' ci rimette. Con 5 figli, certo, è dura, eh? È dura. È dura. Cioè, lei in saccoccia non resta nulla? No, anche le posso raccontare una cosa banale, se vuole, sì, a far ridere, come no. Ma ho resistito fino ad oggi e spero di poter resistere ancora alle pretese del tesoriere del nostro partito, che vorrebbe da me 1.500 euro al mese, che io non sono in grado di dargli. Beh, voi dovete dare 1.500, a parte che Scelta Civica non esiste più ormai, per cui che gli da fa i soldi a Scelta Civica? Io infatti sto resistendo. Appunto, dicendo prima decidetevi se esiste. In attesa di tempi migliori. Comunque non do manco quei 1.500 euro, perché altrimenti non riuscirei proprio. Beh, a girare alla fine. Ma chi gli ha fatto fare? Vabbè, questo è un discorso lungo. Grazie. No, ma penso che chi gliel'ha fatto fare? No, perché voglio dire, io non è che mi sono pentito di quello che ho fatto. Vabbè, è una cosa vabbè. Che sto facendo con passione, mi piace, credo che stiamo facendo comunque un servizio al paese. E non è che mi sto lamentando di quello. No, però lei dice che se dovessi dare i soldi al partito non ce la farei. Grazie, pubblicità. A voi, arrivederci. La Zanzara. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Ancora non vengono fuori i nomi di quelli che hanno preso per il culo Matteo Dall'Osso del Movimento 5 Stelle, che balbettava un po' ma per la sclerosi multipla alla Camera l'altra notte veniva sbeffeggiato, sfottuto da alcuni deputati. Natalino, provincia di Padova. Vada. Buonasera, vorrei dire a quel testa di... A quel testa di Parenzo che... Sì. Che proprio no, non si è sentito bene, di... non si è sentito bene, scusi. Ah, non mi ha sentito bene? No. Vorrei dire a quel testa di cazzo di Parenzo che adesso quando sì. parla di Pricche, di Calderoli, farebbe bene a sciacquarsi la bocca. Lui che è di Padova, basterebbe che andasse a guardarsi i documenti del comune di Codevigo, degli omicidi commessi dopo la liberazione. Sono state fatte inchieste parlamentari, per cui un po' di moderazione sarebbe corretta anche da parte sua. Grazie, buonasera. No, ma aspetti, che va via? Cosa va via? Cosa Natalino, adesso ha sparato, ha fatto la dichiarazione e se ne va. Cosa va? Telefona dalla testa di cazzo, gratis. Io non sono bravo come lei a parlare continuamente. No, ma non deve essere bravo, però non è che può dare la testa di cazzo e poi se ne va. Abbia pazienza. L'ho detto, ma... un po' di moderazione... È inutile essere giustizialisti solo con chi fa comodo. No, ma il problema è un altro, non è che Parenzo stava assolvendo quelli che hanno commesso altri crimini, cioè non ha mai lo fa con tutti, tranne che con i suoi. I suoi quali sarebbero, scusa, allora, secondo la lei? La vicenda dell'eccidio di Codevigo, di cui Cruciani non vorrà parlare. No, ma non mi interessa, ovviamente. Non è quello il punto dell'eccidio, cioè delle cosiddette vendette partigiane post. Ma no, ma c'è cose gravissime, certo. Di questo parla. Di cui ci si occupa di meno, rispetto ad altri crimini. Ma non è vero, ci sono libri straordinari di Giampaolo Panza certo, da anni su quella roba. Però in generale non diciamo cose che verrebbero definite puttanate in una parola. Vabbè, allora che vuoi, dimmi. Nulla c'entra col mio sentimento nei confronti di quel maiale ancora vivente, nulla c'entra questo col mio legittimo sentimento che può, ripeto ancora, girare liberamente perché la giustizia italiana questo dice, io rispetto le leggi ed è ovvio che è così perché è un vecchio che ha vissuto troppo e lì gira. Natalino, come vuole rispondere? Pensasse, erano tutti degli imbecilli e spazio solo a loro. Parenzo un testa di cazzo ed è stato assunto con l'ecca culometro, perché di più non si può dire, perché è un tarato mentale. Buonasera. Vabbè, ma lei è malato. Ma lei si chiama così, non ho capito. Natalino. Il nome è testa, il cognome è che non ho capito. No, signor Natalino, voleva solo insultarti e basta alla fine. Dai. Alessandro Natalino. Da Roma, buonasera Alessandro. Pronto? Dica. Sì, io chiamo da Ancona comunque. Da Ancona, bene. No, bene, il mio intervento più o meno l'aveva anticipato. Si alzi un po' la voce, se no non si sente nulla. Ah, scusi, l'intervento sì, l'aveva anticipato lei prima, perché dicendo al dottore se questa cosa fosse accaduta, mi sto riferendo a Cabobo, al figlio, sì. Vorrei sapere, che poi lui non ha saputo rispondere perché ha cambiato discorso, cioè io non so se lui sarebbe stato in grado di mettere le mani e di salvare la vita a questa persona. Quindi io, detto questo, volevo anche dire che mi sembra anche molto evidente che in Italia si fa un grande lavoro per grande pubblicità, non so, per esempio questo processo, capisco che non è lo stesso discorso, però processo con Berlusconi, Lele Mora, tutto, no? Arrestato 5 anni, i giudici hanno lavorato, hanno fatto tutto il lavoro, poi c'è un cretino che gira in Italia che personalmente se io fossi la mamma, che probabilmente era fuori di testa, perché per rispondere così era fuori di testa, o un parente di uno dei ragazzi uccisi, ecco, io aspetterei allora a questo punto Cabobo fuori della clinica, sì. E quando lui è uscito, visto che stiamo parlando di Prick, abbiamo chiamato il Mossad, allora io faccio il Mossad e elimino questo personaggio. E dunque? Molto semplicemente. E dunque io voglio dire che mi sembra un po' eccessivo in Italia questo discorso che si possa permettere qualcuno di fare una cosa del genere e uscire tranquillamente perché è un malato di mente. Ah, ma c'è nella provincia di Ascoli Piceno. Ma non esce tranquillamente, va in una struttura psichiatrica, non in carcere. Ma io perché la devo pagare io italiano, devo pagare la struttura psichiatrica per una persona che non è normale e non mi ha, cioè non ho nessuna intenzione di poterla portare avanti, per quale motivo? Lo so, questo. Io cittadino devo pagare oltre a quello che pago anche le tasse per pagare un coglione, mi scusi la parola, che vive a sbaffo dentro una clinica, mangia, dorme, è riscaldato, d'estate c'è anche l'aria condizionata, poi fa una passeggiatina fuori. Beh, adesso l'estate è l'aria condizionata, non esageriamo. Mara da Napoli, grazie Alessandro. Mara. Buonasera. Allora? Senta, io la prima volta che chiamo in una radio in assoluto. Sì, vabbè, ce ne facciamo una ragione. Sì, no, io sono assolutamente disgustata dal suo atteggiamento, parole, opere, omissioni riguardo alla questione di Priebke. Ancora con sto Priebke? Sì, sì, perché lei, vabbè, che sia superficiale, sì, insensibile, beh, certo. E quando tratta valori non negoziabili, non è roba sua. Non negoziabili, sì. Sì, non è roba sua, non, cioè voli, diciamo, non basso ma a metà, come sa volare lei. Sì, quei valori lì li lasci maneggiare a chi sa maneggiarli, a ma chi infatti, sa di che cosa si tratta. Ma infatti non e ho nessun problema. Soprattutto piena solidarietà a Parenzo, che spero... lo vedo più combattivo nei suoi confronti recentemente, perché stava prendendo una brutta piega pure lui, invece... Invece è più combattivo, eh? Che? È più combattivo, invece. No, nei suoi confronti fa benissimo, perché non vorrei che seguisse le sue orme. Cioè, lei è un buon conduttore, un buon intrattenitore, ma come giornalista, sinceramente... Beh, sì, arranco un po', eh? Sì, moltissimo. Arranco un po', arranco un no, po'. No, nel senso che per quello che io penso che sia debba essere il giornalismo. Sì. Comunque anche ecco, quello che pensa, di valori. Quello che pensa lei, appunto. Abbiamo sì, riassunto, no, infatti, è quello che pensa io. Lei. È quello che pensa è lei. È chiaro. È perché chi sta parlando? Sta parlando no, lei? No, però sa, qualcuno pensa invece che ci siano dei... No, qualcuno pensa, beh, ognuno pensa quello che vuole. Ecco, appunto. Ci sono alcune cose che sono, diciamo, sì, importanti. Forse lei non ha né la sensibilità né la cultura per poter... Beh, no, infatti, purtroppo, sono limitato. Grazie, no, vabbè, no, sono limitato, ma non c'è problema. No, sono no, no, ma non è la questione che l'è limitato. È un buon intrattenitore, ma sì, il giornalista, secondo me, deve avere qualche... Diciamo... Diciamo... Non deve essere che un diciamo? Indifferente... Un coltivatore dell'indifferentismo morale come fa lei. Un cultore non deve essere un istigatore di nefandezze come a volte fa lei, a volte, non sì, sempre. Sì, sì, sì. Perché lei riesce a tirare il peggio sì, dai peggiori ma anche dai migliori. Sì. E questo sinceramente non è giornalismo. No, poi no, no. Lei finisce sui giornali, mi complimenta. Le con grandi lei. Lezioni di Mara da Napoli, le grandi sì, lezioni. No, no, io non voglio dare lezioni a le grandi nessuno. Lezioni. Le... No, no, no, ma no, allora diciamo ma così, non sono le lezioni. Grandi analisi, le grandi analisi. È la normalità questa. La normalità. Cioè, non la normalità, forse lei non ha letto abbastanza, non sa che il male è banale, non sa neanche chi lo ha detto forse, no, la no? Banalità del male non lo so infatti non lo so, infatti, non lo so è la banalità forse non l'ha letto, ha letto solo la solo spizio, il titolo le capita. Il titolo, sì, sì, il titolo, sì, sì, il titolo. Sa l'ultimo libro che ho letto? Su queste questioni sa qual è l'ultimo? Lasci parlare altri, sì. Lei non è cioè, a parte non che ha io parlo la statura, a parte che io dire. A parte che io anche se alto 1,80 m, a parte guarda, che io parlo statura. A parte che io parlo del cazzo che mi pare, scusi se no, la no, ma per carità, lei può parlare di quello che vuole. Scusi no, se no, soltanto è abbiamo detto una mia opinione. Assolutamente, però, si figuri, per carità. Parenzo tutta la vita. Parenzo tutta. Grazie, di questa, cara, grazie, cara. Bene, bene. Tenga testa e soprattutto non segui che bravi compagnucci che siete. L'esempio di questo non cattivo maestro, ma maestrino, maestrino, perché non è neanche un maestro. No, maestrino. L'abbraccio fortissimo, l'abbraccio fortissimo. Traffico. No, no, no, no, per l'abbraccio, carità. La voglio abbracciare lo stesso. No, è troppo magro, le sue ossa. Lo so, ma lo so. Un po' perché lei quanto pesa lei? Tipo gatto con quanto pesa lei, Mara? Io peso il giusto. Cioè insomma. Quanto? Quanto è alta lei, scusi? Peso il giusto e sono alta il giusto. Beh, bisogna vedere. Ma non, quanto è alta? Me, allora, questa storiella di l'abbraccio, non l'abbraccio. No, sì, ma quanto è alta lei? Quanto è alta? Pensi alla sua testa. Quanto è alta? Quanto è alta? Avrebbe bisogno di una ripulitura. Sì, ma la dà lei la ripulitura, non si preoccupi. No, no, io no. Me la dà lei la ripulitura, non si preoccupi. Me la danno una serie di ascoltatori no, che, per carità, a volte si divertono, ma quando le tocca certi temi, sì, come ha detto giustamente il buon Parenzo, sì, mostra totale insensibilità. Sì. Ma non insensibilità, io non so manche a che gioco stia giocando. Questa è la cosa importante. Traffico. No, no, no. Traffico, questo, traffico. È. Questo è fondamentale però. Traffico. La Zanzara. Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda. Mañana yo soy stanco. Questa è per la signora di prima, che non ha capito bene. No, pare non abbia capito bene tutto. Giovanna da Cuneo. Pronto? Giovanna, dica. Allora, può darsi che noi tutti non capiamo bene, non lo so. Sì, può essere, ma non può è... Può essere. E quando lei dice l'abbraccio, temo, perché vuol dire una cosa brutta. Allora... Vabbè, andiamo al sodo, su, dai. Andiamo al sodo, di corsa. Io l'ascolto, è la prima volta che la chiamo, l'ascolto con semidivertimento da 3 anni. Bene. Amo il paradosso. Sì. E mi è venuto in mente, se volessimo spedire prima, che di nuovo mi spiace, fuori dall'Italia, invece che in Germania, perché non chiediamo se Israele se lo tiene, così magari si occupa di lui come si occupò di Eichmann nel 1961? Guardi, per me può andare ovunque, non me ne può fregare di meno. Cioè, può... Io sono un'idea. Non auguro la morte a nessuno, dunque non mi auguro che muoia, viva quanto deve vivere, se poi lo vuole, ma non può perché ha gli arresti sostanzialmente, per cui... No, certo, lo so, era un paradosso. Ma spediamolo in Israele, non lo so, se non gliene frega niente nemmeno a Israele, questo è il punto, cioè non gliene frega nulla di Priebke, non gliene importa nulla. Sono ancora 4 neonazisti da rintracciare, così diceva la Repubblica di 2 mesi fa, poi non lo so. Un signore da Forlì che si chiama Andrea mi scrive: se Parenzo è contro la pena di morte, perché si augura la morte di Priebke? Parenzo? No, ma infatti io ho detto l'unica volta che fu applicata la pena di morte in Israele, ad esempio, fu nei confronti di Eichmann, e poi fu tolta anche in Israele, poi fu tolta, applicata l'unica volta. Io mi auguro una morte, come dire, naturale. Beh, certo. Mi dispiace che ciò non sia avvenuto 20 anni fa. Mi dispiace che ciò non sia avvenuto. Sì, ma perché tu che sei contro la pena di morte, se così invece auguri la morte? Perché fai una differenza con i nazisti. Fai una differenza con i nazisti. Ho capito. Un conto è lo Stato. Vabbè, ho capito. Un conto è dire... Non ne sentirei la mancanza. Vabbè, ma quello che c'entra, ma non ne sentirei la mancanza è un altro discorso. Ed è un uomo che ha vissuto sin troppo rispetto a quello che ha fatto. Va bene, abbiamo con noi il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Caro Buratti, come va? Ma come va? Va bene, dai. Va bene, come va la stagione lì a Forte? Ma diciamo che dopo la stagione che non partiva perché pioveva, poi è partita, c'è il sole, è caldo, quindi va meglio. Senta una cosa, ma io l'ho difesa per questa cosa della rete sotto il pontile. Signor Parenzo, qui presente invece, noto esponente del Partito Democratico Italiano, come no? Si trova anche alla festa del Partito Democratico. Anzi, sono qui per ragioni giornalistiche. Perché non fai qualche domanda a qualcuno? Il sindaco di Forte dei Mari del Partito Democratico ha messo una rete sotto il pontile per impedire il bivacco a chiunque, non solo agli extracomunitari. In 5 minuti faccio questo sondaggio, allora poi devo chiudere e devo fare il collegamento. Sì, ho capito, me l'hai detto 40 volte. Chiedi un attimo a 2 stronzi lì che stanno lì fermi lì. Vabbè, adesso però aspetta che proviamo con qua. Buonasera signora. Siamo i sondaggi in esclusiva della Zanzara. Il sindaco di Forte dei Marmi ha messo una rete per evitare il bivacco dei negri sostanzialmente. Ma non è lei così. È d'accordo? Sì. Ha detto di no. Ma no, ha detto di sì. Chiedi a un altro. Il 99% del campione dice che è contrario al provvedimento del censore. Ma non è vero. Ti ha detto un sì secco. Sono come i sondaggi che faceva la Ghisleri per Berlusconi uguale. Ma guarda che invece quei sondaggi ci prendeva la Ghisleri. Fai un'altra domanda. Aspetta, dai, che proviamo un'altra volta. Sì. Buonasera. Siamo del gruppo sondaggi in esclusiva per la Zanzara. Le volevo solo chiedere questo: il sindaco di Forte dei Marmi ha messo un filo spinato per evitare che i negri si siedano. Ma non è vero. Lei? No, non è vero. Ha detto no, non è per niente giusto. Hai fatto la domanda sbagliata. Forse sono stato un attimo, forse ho messo fatto una domanda un po' tendenziosa e un po' colorata, però fai una domanda giusta, fai la domanda giusta, ti prego, fai la domanda giusta. No, faccio la domanda giusta, sì. Cosa ha messo? Una rete ha messo, no? Ma sì, lo sai, dai, una rete ha messo, dai, ha messo una rete. Piccola rete, una rete sotto rete. Il pontile, giusto Buratti? Giusto. Adesso sentiamo la domanda giusta, vediamo. Salve. Buonasera, sondaggio in esclusiva. E il sindaco di Forte dei Marmi ha messo una piccola rete per evitare che si formi il bivacco sulla spiaggia dei venditori di oggetticoli. Lei che ne pensa, giusto? Non ho capito. Il sindaco di Forte dei Marmi ha messo una rete per evitare che si formi un bivacco di questi vucum pra sostanzialmente, no? Lei è d'accordo? No, contrario, contrario. Contrarissimo, mi pare, no? Sì, molto. Sì, ma gliela devi spiegare bene, però. L'ha messo la rete sotto un ponte perché lì bivaccavano. Non è che ha messo la rete qua con quelli rinchiusi dentro, stile allora, c'ho qui un altro ospite, bestie feroci, dai. Allora, c'è il sindaco di Forte dei Marmi, si è messo una rete. Partito sotto Democratico, un ponte, del Partito Democratico. Il sindaco del PD di Forte dei Marmi, bravissima persona, peraltro, si è messo questa rete per evitare che si formi un bivacco sotto questo ponte. Lei è d'accordo o no? Non è d'accordo? No. Perché? Perché non è d'accordo? Perché lasciamo tutti vivere. E già, ecco, anche i negri sostanzialmente. Certo. Senta, diciamo anche un'altra cosa. Il signor viceministro Fassina, sì, dice che esiste un'evasione di sopravvivenza. Sì. Che dice lei? Forse c'ha ragione. Quindi è contrario a quello che dice Fassina? No, forse ha ragione. È fortemente contrario, ho capito bene? Fortemente contrario. È fortemente contrario. Vai, vai avanti col sondaggio, vai avanti, vai avanti. Mi dispiace, perché non vorrei che poi si dicesse che sono fazioso e che c'è manipolazione, perché... Vai avanti col sondaggio, vai non avanti col sondaggio. Non vorrei che fosse così, vediamo adesso chi trovo. Vai avanti, grandi sondaggi allora, della Zanzara in diretta dalla festa del Partito Democratico. Buonasera. Sono dell'istituto sondaggi subito. Senta, il sindaco di Forte dei Marmi ha messo una rete, una enorme rete. No, ma una rete, che enorme. Per evitare che sostanzialmente i vucum pra si appollaino senza fare un all'ombra. Cazzo all'ombra. Ecco, questo è il testo del sondaggio. Ma lo sa già, lo sa. Lei è d'accordo o no? No. Molto non d'accordo. Molto non d'accordo. Moltissimo, diciamo. Sono diverse opzioni. Gli spazi devono essere liberi. Ecco, sono diverse opzioni. Molto d'accordo, molto non d'accordo, negativissimo. Molto d'accordo. Benissimo. Che non si faccia. Ecco. Che non si faccia. No, beh, e Fassina che è a favore dell'evasione fiscale di sopravvivenza? Adesso lo chiediamo. Buonasera. Siamo dell'Istituto Sondaggi subito. Il signor viceministro Fassina ha detto che esiste un'evasione di sopravvivenza. Lei che ne pensa? Ha ragione? Esiste un'evasione? Ha fatto un gravissimo errore, perché facendo questo tipo di dichiarazione è rientrato perfettamente nella cultura politica del centro. Quindi gli diamo la testa del PDL a Fassina sostanzialmente. Con quest'uscita sì. Gli facciamo la testa del PDL. Grazie di questo. Vabbè, i grandi sondaggi di Parenzo in diretta. Buratti, alcune voci positive, altre negative. Io sono dalla sua parte, glielo dico subito. Grazie, che succedeva? Grazie. Che succedeva da quelle? Perché avete dovuto mettere sta rete? Beh, intanto voglio precisare che questa rete veniva messa anche 40 anni fa, quando io, che oggi ho 53 anni e ne avevo 13, e c'era già la rete che veniva messa proprio per impedire che qualcuno andasse là sotto a fare i suoi bisognini. Ma oggi che succedeva? Oggi concretamente? E oggi succedeva la stessa cosa. Cioè, quindi, facevano di tutto là sotto? Sì, ma non è solo una questione dei senegalesi, chiunque può andare là sotto. E attenzione, stiamo parlando di un tratto di pontile. Cioè, ma che facevano? Si drogavano, poi scopavano, facevano no, di tutto? No, principalmente ci rimaneva un po' parecchi rifiuti, veniva insomma utilizzato come così, insomma. Poi... Ma è vero che qualcuno trovava riparo dal sole, oppure è una cosa che hanno messo in giro così? Ma trova riparo dal sole, ma attenzione, cioè, Forte dei Marmi, basta attraversare via la mare, niente, se uno vuole stare all'ombra... Ma sì, dai, su, dai, sai, su, Parenzo, ma perché non capisci questa cosa? Ma che c'entra l'ombra? Uno si sposta, va sotto un albero e si ripara dall'ombra, o no? Mi chiamate? Parenzo? No, sto dicendo che Buratti dice che uno l'ombra la può trovare anche sotto gli alberi, non è che c'è bisogno di mettersi sotto un pontile. No, Buratti su questo indubbiamente non ha tutti i torti. Ma ieri l'attaccavi? Solo che mettere il filo spinato addirittura. Ma filo spinato? Ma la rete? Non c'è il filo spinato. Ma non c'è il filo spinato? Non avete scritto in tedesco Achtung, Achtung? La spiaggia di Forte dei Marmi, a differenza di altre, si può entrare in ogni passo, in ogni zona. Non c'è nessuna zona vietata. Comunque è vero che un sacco di militanti del PD si sono incazzati? Ma un sacco no, non direi proprio, no. Anzi, io ho sentito la maggior parte perché conoscono e sanno il luogo, come dire, mandarli là sotto è un luogo, secondo me, proprio del tutto inappropriato, dove mandare qualcuno lì, no, sotto il pontile, dai, sotto un ponte, quando te parli a uno dice, guarda, sotto un ponte, dovrebbe stare sotto. Vabbè, magari ponte. Per qualcuno può essere, guardi, per me le può mettere tutte le reti che vuole, se là sotto pisciavano, no, sporcavano, infatti, eccetera. Di decoro, di pulizia, di igiene pubblica, dai. Va bene, abbiamo la borsa, torniamo subito, 800 24 00 24, ciao Parenzo, addio. La Zanzara. Le straordinarie performance del leghista Sergio Divina, l'ultimo omofobo, anche se lui non si dichiara tale, l'ultimo anti-gay scovato dalla Zanzara. La normalità è l'eterosessualità. Beh, dunque, la normalità sono anormali. Se lei dice che è normale. È una, non so se chiamarla devianza, ma devianza. Comunque è un'inclinazione sessuale che non è la normalità, per fortuna, non è la normalità. Mi piacerebbe molto, però un figlio è un figlio e te lo tieni in qualsiasi modo. Ma quello non c'è dubbio. Fosse anche un delinquente, te lo tieni anche delinquente. Provi a fargli capire i comportamenti corretti e meno. Se avessi anche un figlio deficiente, ti tieni pure il figlio deficiente. Diciamo che in ogni famiglia abbiamo un fratello un po' cretino e ce lo teniamo sulle spalle. Buonanotte. Beh, insomma, c'è sempre qualche disgrazia, dice lei, no? In ogni famiglia ha le sue. Saluto il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, reti per tutti, caro Buratti. Dunque facciamo questo annuncio: la rete sotto il famoso pontile resterà per sempre. No, beh, la rete resterà perché, come ti dicevo, in passato questa rete pure c'era. La vogliamo fare definitiva? Vogliamo chiuderla sotto o no? No, chiudere no, anche perché serve fare manutenzione tutto al pontile serve. Ma poi, come in passato, per mantenere il decoro di quel tratto comunque di spiaggia, credo che sia necessario. Senta, lei che è un sindaco di sinistra in un posto come Forte dei Marmi, frequentato da un sacco di ricchi, per fortuna sua, anche stranieri, ma l'uscita del vice ministro Fassina, che ha parlato alla berlusconiana, alla Berlusconi maniera, direbbe Di Pietro, di una evasione per sopravvivenza, la comprende questa uscita di Fassina lei? Ma comprenderla, direi che contraddice tutto quello che è stato detto finora dal Partito Democratico. E anche dallo stesso Fassina soprattutto. E da lui, grazie, era uno di quelli molto severi, molto rigido, eccetera. Certo, e che gli è preso? Che dire, forse è stato impressionato dai dati che l'area di governo dove gli hanno detto guarda la tassazione è al 54%, la vicinanza di Brunetta che infatti ha detto benvenuto nel PDL. Vabbè, grazie Buratti, grazie, a presto. Grazie a voi, buona serata. Parenzo alle prese con il divino Telma, signore e signori, noi ce lo ricordiamo in questo modo. In questo periodo, negli ultimi mesi, mi dispiace, cari ascoltatori della Zanzara, l'avete dovuto sopportare in una veste un po' dimessa, si è ripreso negli ultimi 20 giorni, però comunque noi ce lo vogliamo sempre ricordare così. Eccolo, divino, finalmente noi vogliamo ascoltare le cose bene. Di qualcosa subito a Parenzo che ogni volta ti prende in giro, caro divino. Sì, ma per noi non esiste costui. Dove l'avete preso? Fra qualche bancarella di Trastevere, sotto qualche ponte, ma chi è? Cosa rappresenta? Mandato dal circo Barnum a vendere lupini, perché quella è la sua missione primigenia. Francamente divino, detto con rispetto, da uno che si veste con dei turbanti e con 50 anelli e che parla del plurale maiestatis dicendo delle cose di una banalità. Ma cosa vuoi sapere tu del plurale maiestatico? Tu che sei nato non si capisce come, capra, dove, quando, maiestatis, che claudichi senza posa in un italiano assolutamente imperfetto. Innanzitutto ritorna a scuola, ricomincia dall'asilo. Impara da capo, perché tu è evidente che non sai cosa sono i sostantivi, cosa sono i verbi, non sai cosa sono i congiuntivi, non sai cos'è la consecutio temporum, come puoi confrontarti con noi. Ma tu, come vivi? Tappo, ma che noi? Tappo, ma di che significante? Togli di che cosa mezzo, vivi? Vai a vendere lupini, perché ma tu non sei niente davanti a noi. Ma come li compri? Che cosa li compri con i turbanti che ti metti sulla sacro calciare? Te l'abbiamo già detto, taci, togliti di mezzo. Faccio parlare con persone che abbiano sapere qualcosa da dire, che abbiano un senso almeno nella loro esistenza. Ma quale senso? Noi e i nostri vaticini, quali vaticini? Stai calmo, stai calmo. Non sai neanche cosa vuol dire vaticinio. Se io ti chiedessi di dirci chi è Trismegisto, cosa ti sai dire di Trismegisto? Se ti chiedessi chi è Casaubon, cosa ti sai dire di Casaubon? Tu non sai nulla, devi solo tacere in rispettosa meditazione e contemplazione del nostro volto radioso e poi chinarti a baciare i nostri sacri calzari. Ma quali calzari? Che puzzano pure, puzzano pure calzari, puzzano pure, fatti di lana caprina, fatti di lana caprina quei calzari, calzari puzzolenti sono. Ma sì, tu cosa vuoi sapere della lana caprina, tu che vesti così in modo raccogliticcio, senza senso, senza nesso. Senza allora, che tu sia raccordabile con qualsivoglia essere né umano né subumano, perché tu non appartieni alla terra, tu appartieni al sottoterra, e di lì tu provieni, sei in pratica a contatto giorno e notte con dei vermiciattoli insignificanti. Oddio, oddio, stare qui ad ascoltare ore, ore i battibecchi. Tutti naturali, non c'è niente di costruito tra David Parenzo e il divino Otelma, il divino Otelma. Marco da Savona, buonasera signor Marco. Buonasera Cruciani, buonasera. Dica, Parenzo. Dica. Parenzo se n'è andato. Mi sente? Sì, sì, la sento. Allora, io vi ascolto tutte le sere e quindi ho ascoltato tutti i politici che sono intervenuti, che hanno parlato delle cazzate tremende. E non mi sono mai sentito in dovere di chiamare, mi sono fatto tante risate. Cos'è che le ha fatto girare stasera, i coglioni? Stasera ho sentito il senatore Gigli, sì, che ha dimostrato di non avere veramente nessun rispetto per gli italiani, dicendo che lui con lo stipendio che guadagna ci rimette, sì, che ha 5 figli da mantenere, sì, e quindi per carità i 5 figli non glielo ho trombati io. Ma li voglio adesso dire, Marco, abbia pazienza. Sì. Ne ho tre, lavoriamo in tutte e due, io e mia moglie, guadagniamo un sesto di quello che guadagna lui, sì, e li manteniamo benissimo. Hanno dignità, studiano, vanno a scuola, li vestiamo, li diamo da mangiare. Io vorrei dire a questa gente che, visto che sono mesi che si discute di tagliare gli stipendi, di togliere il finanziamento ai partiti, che sì, dovrebbero soprattutto avere quello, un po' più di rispetto per gli italiani quando intervengono alla vostra trasmissione. Dunque, cosa ha fatto? Le è venuto da vomitare mentre parlava Gigli di queste da robe? Da vomitare. Io stavo guidando, ho preso a pugni il volante. Addirittura. Le dico solo, signor Cruciani, che io sono in una situazione in questo momento buona, perché lavoriamo entrambi, io e mia moglie. Ma chi ascoltava la radio e magari ha perso il lavoro da poco tempo, per colpa del governo che aumenta di continuo la pressione fiscale, e sente dire da un senatore pagato da noi contribuenti che non ci sta dentro, ma che fa una cosa che gli piace, probabilmente quello che faceva prima non gli piaceva abbastanza. Capisce? Va bene Marco, grazie. Luigi da Milano, buonasera Luigi. Salve Cruciani, peccato che se ne sia andato Parenzo. Intanto complimenti e spero di ritrovarvi a settembre, perché la vostra trasmissione è come, rispetto alle altre, è come andare in un bordello, non so, lei penso che sia, è molto frizzante, molto... Vabbè, molto... adesso poi il paragone è giusto, non è così, è come andare in un bordello rispetto a che cosa, scusi? Rispetto ad andare, che ne so, a una riunione di condominio, oppure... O con la moglie. Bravo, l'hai messo te quella, io... No, ma io ho interpretato il suo pensiero. Lo so, ma siccome frequento spesso questi luoghi... Pure lei. Sono un assiduo frequentatore, mi creda. E dove va, scusi, in particolare? Parecchi posti, anche qui da noi ci sono molti posti clandestini dove si può andare tranquilli. Dove ma a Milano? Milano? Anche. I soliti cinesi, insomma, no? No. Io, guardi, su quel lato lì sono ferreo, solo italiane. Ferratissimo. Ah, sì. Ferreo, nel senso lei va solo con le italiane? Solo italiane e bravissime. Hanno magari casalinga, hanno un doppio lavoro, studentesse. Vabbè, ma tutta roba privata, mica case chiuse sul serio, mica. Però cosa vuol dire? No, ma voglio dire, non ci sono le situazioni da bordello come in Svizzera. Come in... Ci sono bei gruppetti, ci si riesce a divertire. Bei gruppetti, sa tutto lei. Io a Milano non frequento. No, devo dire, ma non solo Milano, mi credo, dopo Venezia, ci sono parecchi posti. Ma insomma, lei è danaroso, allora, cioè è uno che spende per queste cose. Chi ha la passione di giocare a tennis, chi ha calcetto, comprare i gratta e vinci, io invece. Va a mignotte. No, lei le chiama mignotte, per me. Vabbè, ma in senso persone... ma in senso positivo, mica in senso negativo. Sono delle persone più rispettabilissime che sono a questo mondo. Ma assolutamente, si figuri, eccetera. E lei era molto intelligenti e arrivano sì. Ma arrivano al dunque molto prima degli altri. Beh, al dunque sicuro arrivano prima delle, ma lei dove va? All'estero dove va, Luigi? Austria, dove diceva lei, Germania. Sì. Slovenia, qualcuno. Svizzera. Anche. Beh, insomma, lei è un grandissimo esperto, Luigi, un grandissimo esperto. Vorrei portarla con me, volevo portarla. Vabbè, con me. Vabbè, adesso non esageriamo. No, Luigi. Ma non con me, far conoscere alcune ragazze. Vabbè, insomma, adesso vai. Vai, comunque, che voleva dire, signor Luigi? Ma un po' ha fatto girare i coglioni quel medico lì che ha detto che si preoccupa del genitore che ha ammazzato la gente. Io lo dico sinceramente, ne ho pieni i coglioni di questa extracomunità. Vengono da noi, ci rompono le palle. Sì. Lei va da Forte di Marmi, io ho visto quel posto lì, cosa c'era sotto? Che c'era? Ma lei ci è andato a vedere? Sì. Che c'era? E di tutto. Un immondiziaio. Beh, dunque ha fatto bene quello del PD, no? Ha fatto benissimo. Sono favorevole anche alle sue dichiarazioni sull'evasione di sopravvivenza. Te pareva? E questo è sempre esistito. Lei è a favore dei bordelli, contro gli extracomunitari e per l'evasione di sopravvivenza. Sono un mondo perfetto. Beh, insomma, sì. Mi dispiace che non ci sia più Parenzo, sennò quel kebab lì che si mangiava direi io dovevi mettercelo. Lo so, infatti po'. Sarebbe stato divertente. Ma Luigi, guardi che domani la metto in collegamento con Parenzo, così gliene dice quattro. Domani la richiamo. Perché voi, sì. Ricordi, rispetto alle altre... Ma che noia, forbici e le altre trasmissioni, quelli che telefonano, che gli dicono ma lei mi va bene, lei lo manda a fanculo quando è ora, non manda... Ma sai quante ce ne sono che vanno a bordelli, ragazzi? Luigi, domani la richiamo, la metto a confronto con Parenzo. Ricordatevi voi dietro il vetro, appuntatevi questo nome, lasci il numero, domani deve massacrare Parenzo, ma massacrare, massacrare Luigi. Ti pago io il posticino, lo porto con me, quindi lo porti con lei in qualche bordello in Italia, su, così almeno torna giovane. Si dà una bella svegliata, dai. La verginità che non ha mai perso fino adesso. Traffico, grazie. La Zanzara. Beh, cari ascoltatori, siamo quasi alla fine di questa strepitosa stagione in cui svetta, come ricordo, come cameo, lo scontro epico tra Parenzo e Riccardo da Roma. Riccardo da Roma, 800240024, Riccardo, vada! Pronto? Sì, dica. Mamma mia, stasera proprio palle cadute per terra proprio, a parte un'ora prima di parlare, poi... Una trasmissione dove i comunisti se la suonano e se la cantano da soli. Parenzo che è una testa di cazzo, ma a livelli incommensurabili. E Cruciani, mi dispiace dirlo, fino a qualche anno fa l'ascoltavo, ma è diventato un lecchiaculo dei comunisti, pure lei. Una cosa vomitevole. Ma comunque continuate così, perché prima o poi scoppierà una guerra di piazza, sì. Perché in un paese di merda come questo, dove il capo dell'opposizione viene messo in galera con un pretesto, no, veramente non è in galera. Sono vent'anni, mo ci sarà in galera, non ti preoccupare, che mo ci ho messo in galera, lo so persino io. Perché ti droghi? Fatti di metadone, non drogarti. Fatti di metadone. Non ti devi drogare. Ti distruggi. Ma chi è? Guarda come sei ridotto. Che parla? Coglione, ma che cazzo parli? Pagliaccio. Stia tranquillo. Stai zitto. Comunista, prendi i soldi dal PD. Stia tranquillo. Stia tranquillo. Tu prendi i soldi dalla Sette, dal PD. Vabbè, che c'è? La rete di Telecom Italia Media. E allora qual è il problema? I soldi del PD. Poi dite un sacco di cazzate. Le visite fiscali in Italia non funzionano. Non è un cazzo, le visite fiscali sono la cosa che funziona di meno. Io posso garantire che lavoro in un posto dove ci sono centinaia di dipendenti pubblici, centinaia, tutti malati, nessuno gli mandano la visita fiscale, nessuno, quindi non dite cazzate, questo è vero che non la mandano. Informazione, i dipendenti pubblici non fanno un cazzo. Ma due ambulanze, ma come se lo devi solo da una parte? Fai parlare. Ma dove lo trovi il crack? Ma dove lo trovi il crack? Pagliaccio, tu devi tacere. Prendi i soldi di Telecom Italia Media e taci. prendi i soldi lì dalla trasmissione cortelese che fa il Pinocchio col microfono in mano, la R-Moscia, stai zitto. Ma quale R-Moscia? Perché ti fai così? Io sono schierato, io ho votato Berlusconi, sono un elettore di centrodestra, sto legittimamente manifestando il mio disappunto perché il leader del mio schieramento rischia di andare in galera e la reputo una cosa orripilante in un paese democratico. Ma non ho paura di dirlo, gridarlo a microfoni. No, invece, una comunità di recupero. Invece tu devi andare tu, in una comunità di recupero immediatamente. Prezzolato fazioso, non hai neanche le palle di dire che sei del PD. Cioè lo sei, ma non lo dici, c'hai la foglia di fico, vergognati, vergognati. Ma tu sei strafatto, non andare in giro così, sei ma strafatto. Ma tu sei un coglione, io sono strafatto, ma tu sei un coglione. Ma sei pericoloso per te e per gli altri, ti ma che cazzo dici? Ma qua l'unica persona pericolosa sei tu che c'hai un microfono in mano e dici stronzate di fronte a milioni di persone, tu disinformi la gente, coglione, coglione. Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma che vuol dire? Testa di cazzo, ma non lo vedi che è tutto palese, che è tutto palese? Ho la visita fiscale pure Parenzo, io ho lavorato in tante ditte private, sì, posso dire che la visita, ma quali cazzo di ditte private hai lavorato tu? Ma non la mandano, non la mandano, non la mandano a nessuno la visita fiscale. Ma che visita fiscale? Povero, perché se tu lavorassi veramente, se sapessi che vuol dire guadagnarsi il pane col sudore della fronte, di fronte a comunisti di merda che bruciano i soldi pubblici, lei... con le intercettazioni del cazzo, coi processi, coi milioni di euro della porca Pini. Cazzo di legno a Napoli, lì, hai ricciocchi a quel legno che fa l'inchiesta sulle veline, centinaia di milioni di euro buttati nel cesso di soldi nostri. Ma perché ti alzi la mattina? Perché sei un partigiano. Tu ti alzi la mattina e tu riassi. Licenziata, licenziata. Parenzo, rispondi. Mamma mia. Mamma mia, poveretto, è un partigiano. Sai che mi viene la mattina? Di finire nel mirino di uno di quelli tipo la Boccassini o Henry John cazzo di legno, ecco, finisci nel mirino di uno di questi che ti prende di mira e ti comincia a cagare il cazzo come hanno fatto con Corona, con Emanuele Filiberto o qualcuno, e improvvisamente domani questo si sveglia e decide che ce l'ha con te, sei finito. Poi mo viene a raccontare la visita fiscale, l'uveite, le minchiate, le mignotte, poi me lo dici. Siamo al top, siamo al top, siamo al top. Giovanni da Pescara, buonasera. Cruciani, buonasera. Dica. Senta, ma ce lo fa questo coming out? Su che cosa? Ma dico, lo ammetta finalmente. Ma cosa devo ammettere, Giovanni, di essere omosessuale? Ma, che cosa? Ma no, ma ci mancherebbe, che banalità. Ammetta di essere un I coming out sono un fascistello. Anche molto piccolo. Sì. Ma perché cosa? Perché ho detto qualcosa su Pripyat che non rientra nel politicamente corretto? Perché ma ho detto... No, ma a prescindere, ammetta di essere un fascistello. Vabbè. E anche il motivo per cui ci fa ridere. Sulle parole, sì. Sulle parole si può giocare, avanti, su, dai. Ma è il motivo per cui ci fa ridere, è un buffone, un fascistello. Va bene, sono un buffone, un fascistello, vabbè, la vuole mettere così, faccia pure, avanti. Continui. Ma no, ma questo, volevo solamente dire questo. Sì, la ringrazio per... Sei divertito a dire queste due stronzatine? Queste due stronzatine, soddisfatto? Può tornare a casa tranquillo? Assolutamente soddisfatto. Sì, si può rintanare a casa a Pescara tranquillo adesso? Può dire, assolutamente. Può dire agli amici, ho chiamato la Zanzara, ho dato le fascistelle a Cruciani. Bene, Vittorio da Milano. Prego. Vittorio, ognuno ha le sue soddisfazioni. Vittorio. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Mi sente? Sì, la sento, come no? Vorrei sapere, da Parenzo, perché si indigna tanto per le passeggiate di Pribke... E non si indigna per i territori occupati continuamente e illegalmente stigmatizzati dall'ONU, dall'Unione Europea, quindi occupati illegalmente da Israele. Vabbè, sono due questioni diverse, però Vittorio, non mette in mezzo queste cose che non c'entrano un cazzo, abbia pazienza. Non c'entrano un cazzo? Non c'entrano nulla, sono due cose diverse, dai, su. Perché non si indigna anche per i territori occupati illegalmente? Ma sono due cose diverse, dai, su, non mischiamo cose assurde, i territori occupati, secondo lei, illegalmente da Israele in una guerra che va avanti da non so quanti anni contro tutto il mondo arabo e la questione del nazismo. Dai, Vittorio, su, non mi faccia incazzare. È giusto che continuino. Ma io non ho detto che è giusto, io ho detto che sono due cose diverse, molto diverse, molto molto diverse. Va bene. Okay. Salvo da Pescara. Buonasera, Salvo. Ciao Giuseppe, sei un mito. Vai. Dopo l'intervento di Riccardo da Roma qualsiasi altra cosa è superflua. Lo so. Ma com'è che si chiama quel pescarese che volevo chiamare, di cui abbiamo mandato in onda alcuni spezzoni qualche anno fa, anzi un anno fa, sulla Germania, eccetera, quel commentatore pescarese straordinario di una televisione che parla del Pescara, come si chiama? Non lo so, ma te lo ritrovo e te lo mando. Com'è che si chiamava quello che sparava contro i tedeschi, contro la Merkel? Stupendo era. Vabbè, Salvo, allora che vuoi dire? Ma sono perso. Allora, che volevo dire su quella roba di... Ho un fortissimo ritorno in radio. No, io lo sento benissimo, vai. Ok. Su quella roba di a Bobo, tutta la gente che si indigna perché non andrà eventualmente in galera, ma dovrà essere sottoposto a un trattamento sanitario. Vorrei solamente ricordare che non è una clinica privata con l'infermierina che ti porta l'antidepressivo, perché gli ospedali psichiatrici giudiziari sono l'inferno sulla terra proprio. Sì, è vero, c'è da aggiungere una cosa però, è molto facile oggi, anche per uno, senza voler entrare nel merito dell'analisi che hanno fatto i periti eccetera, cioè uno che dice di sentire le voci eccetera, è facile darsi per matto, cioè non è che sia complicato, cioè io non sì, mi stupirei. Dopo aver visto tipo il servizio che ha fatto Iacona su diretta qualche tempo fa sugli OPG, direi ma mille volte meglio il carcere. Meglio il carcere degli OPG, può essere. Ma mille volte. Vabbè, Salvo, che vuoi aggiungere? Prima cosa. Seconda cosa, io non capisco anche perché la gente parla ancora che deve essere punito, non deve essere punito. Quello è un vecchio rincoglionito, a questo punto peggio di Cabobo, che non capirebbe manco il motivo della punizione. Quelli inquietanti sono quelli che gli vanno a fare il compleanno, gli vanno a fare genuflessioni, quelli che stanno là. Vabbè, ma le genuflessioni, ma quali genuflessioni? Ma nessuno va a fare genuflessioni, dai, su. Perché sennò non starebbe a parlare da tre giorni del... Vabbè, altro? C'è da aggiungere qualche altra cosa? Villac. Ah, sulla Villac Austria, sì, sulla storia dei bordelli? Andiamo. Villac Austria, il consiglio di Salvo. Beh, diciamo che domani chiudiamo con i consigli per i migliori bordelli nelle vicinanze dell'Italia. Anche se in qualsiasi città vai trovi... Dove? In Austria? In Italia. No, in Italia no. Ma in Italia no. Sì, ma non come là. Villac... No, non ci sono stato a Villac. Ma io poi non sono stato. Sono stato tre volte. Vabbè, Villac, vado a vedere. Villac. Mauro da Milano. Mauro. Sì, buonasera. Ho sempre pensato che Semproni si chiama, mitico Semproni. Semproni, numero uno. Mauro, allora? Ho sempre pensato che Fassino fosse un cretino, mi viene l'itterizia tutte le volte che ne sento parlare, ma oggi ne ho avuto la convinzione. Perché cretino? Ha detto una cosa sacrosanta, qual è il problema? No, non è una cosa sacrosanta. Io ho dichiarato, l'anno scorso ho avuto un utile di 57.000 euro e quest'anno devo pagare 48.000 euro di tasse. Allora c'ha ragione lui. Però io non posso non pagarle, questa è la differenza fondamentale. Perché io non faccio l'idraulico, non faccio l'imbianchino, non faccio l'elettricista, non faccio l'avvocato, non faccio il dentista, non faccio il medico. Faccio uno che fa fatture alle aziende e quindi io devo pagare. Quindi vabbè. Il gioco mi va bene, però finché è per tutti. Ma se è solo comunque per qualcuno, si è svegliato tardi Fassina a capire questa cosa, a capire che qualcuno evade non perché vuole evadere ma per necessità, per la stortura del fisco italiano. Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, vive Lotta insieme a voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica, a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.